Cari amici, signore e signori, la mia relazione è ciclostratificata, è stata distribuita, quindi io non vi infliggerò la lettura di questa relazione. Chi voglia leggersela, se la leggerà tranquillamente. Io farò anzitutto alcune considerazioni nella prima parte di questa mia conversazione. No, vorrei solo del silenzio, niente di più. Volevo solo un po' di silenzio. Nella prima parte della mia conversazione farò alcune osservazioni generali sul problema fascismo e nazionalsocialismo. Nella seconda parte mi soffermerò su qualche punto della mia relazione scritta. Il problema del fascismo e del nazionalsocialismo. Io non sono uno specialista degli studi sul fascismo, sono semmai uno specialista degli studi sull'Austria-Ungheria, che del resto non possono non interessare il Trentino, che faceva parte di quell'impero. E poi sono modestamente forse uno specialista nella storia del movimento operaio socialista, che naturalmente ha molto da che fare col fascismo, ma è anteriore nella sua storia al fascismo. Sono invece un testimone, come diceva Vandruska, perché il fascismo l'ho vissuto dall'inizio alla fine. Sono vecchio, avevo già 14 anni ed ero precoce al momento della marcia su Roma, poi sono anche bilingue, parlo e leggo il tedesco, motivo per cui se poi gli ascoltatori tedeschi vorranno tradurrò qualche parte di questa conversazione, e quindi ho seguito anche il nazionalsocialismo nell'originale tedesco, naturalmente attraverso la stampa, perché vivevo in Italia e non in Germania. Ed ecco la prima constatazione che come testimone farei, ma che la fanno anche gli storici, è che la storia del fascismo e del nazionalsocialismo è per lungo tratto, prima nella realtà e poi anche nella storiografia, la storia della loro sottovalutazione. Furono sottovalutati. Furono sottovalutati, se non lo fossero stati, forse non avrebbero potuto conquistare il potere. Dico forse perché in realtà fascismo e nazionalsocialismo furono spinte violente, venute dal basso, anche se manovrate dall'alto, e non so se anche una retta comprensione di che cosa significassero avrebbe potuto impedire la loro vittoria. Comunque avrebbe potuto renderla più difficile. Ma questa comprensione non ci fu. Non ci fu né da parte di coloro che appoggiarono questi movimenti, né da parte di coloro che li combatterono, o che avevano in ogni modo in ogni interesse a combatterlo. Tutti quelli che hanno studiato le origini del fascismo italiano, ma c'è anche una tradizione orale, sanno come il fascismo ai suoi esordi fu considerato un fatto di quattro ragazzi. Erano quattro studenti, o anche non studenti, magari arditi di guerra, ma comunque quattro giovani. Il nazionalsocialismo fu sottovalutato in maniera più grave, perché quando andò al potere c'era già la dittatura fascista in Italia da più di 10 anni. Quindi De te fabula narratur avrebbe potuto essere pronunciato o comunque constatato da chiunque, perché poi Hitler non nascondeva affatto di prendere come modello Mussolini. Naturalmente i suoi scopi e in parte anche i suoi metodi non erano gli stessi di Mussolini, però egli vedeva lì un esempio di una rivoluzione, sulla parola rivoluzione poi torneremo, vittoriosa di destra anziché, come era accaduto col bolscevismo, di sinistra, e Mussolini ne era il rappresentante. Quindi la sottovalutazione del nazionalsocialismo è ancora più grave che non la sottovalutazione del fascismo. Però anche la sottovalutazione del fascismo fu grave, perché il fascismo fu tenuto a battesimo proprio da coloro contro i quali si dirigeva. Cito il caso, direi più classico, quello di Giolitti, presidente del Consiglio del 1920-21. Se voi guardate la biografia di Mussolini, naturalmente c'è l'opera di De Felice, ma lo trovate documentato questo in infinite testimonianze, in ultimo per esempio nell'epistolario di Salvemini, nell'ultimo volume, 1912-14. Ora, Mussolini si caratterizzava, prima nel Partito Socialista, poi da interventista, poi anche dopo, per il suo antigiolittismo. Giolitti era per Mussolini l'incarnazione di tutti i vizi del regime, del sistema politico italiano. Non era il solo a pensarlo, a Salvemini stesso, naturalmente prima di Mussolini, aveva coniato la frase "il ministro della malavita". E in effetti, proprio nell'epistolario a Salvemini, vedete che quello che hanno in comune questi due, Salvemini, socialista, riformista che esce dal Partito Socialista perché non considera abbastanza riformista il partito stesso, cioè che non studia abbastanza le riforme, corre dietro a slogan rivoluzionari. Mussolini invece è il capo del socialismo rivoluzionario, ma hanno in comune, lo dicono, l'avversione a Giolitti. Quindi Giolitti questo naturalmente non lo ignorava, tuttavia fu Giolitti non solo a tollerare le violenze fasciste, tollerarle anche quando in Parlamento Matteotti e altri deputati socialisti segnalavano l'incendio praticamente di tutte le camere del lavoro, la distruzione delle sedi delle organizzazioni operaie, un numero enorme di bastonature di oppositori, anche morti, un deputato fu ucciso, un deputato socialista, di Vagno, dai fascisti, e poi tutto il resto. Giolitti non voleva mai procedere perché diceva non è un problema di polizia, perché sono troppi, e lo diceva quando non erano ancora tanti, insomma li incluse per disciplinarli, non comprendendoli, nel blocco elettorale governativo del 1921, perché pensava di fare con i fascisti la stessa operazione che aveva fatto con la destra riformista del movimento socialista, cioè addomesticarli portandoli in Parlamento ed eventualmente anche al governo. Quindi sottovalutazione totale. E sottovalutazione fino alla fine, perché avrebbe potuto anche riprendere il potere nel 1922 se l'avesse voluto al posto del suo debolissimo luogotenente Facta, ma gli sembrava che la via giusta non fosse quella di un suo governo, bensì di un governo che comprendesse ormai i fascisti stessi. Non si rendeva cioè conto che i fascisti avrebbero distrutto quello Stato liberale del quale Giolitti era invece convinto e fedele servitore. Ma anche gli oppositori del fascismo, quelli che soffrivano sotto le violenze fasciste, lo sottovalutarono. E Matteotti, per esempio, fu il primo nella Camera dei Deputati, già nel gennaio del 21, a chiedere provvedimenti contro le violenze fasciste, e chiedeva addirittura quello che modestamente io chiedevo in questi ultimi 12 anni contro il terrorismo, cioè che venisse considerato come un'associazione a delinquere, quindi stangata severamente dalla polizia e dalla magistratura. Però mentre il rimedio che chiedeva poteva essere anche giusto, la sua concezione del fascismo era totalmente sbagliata. Egli considerava il fascismo non con la dogmaticità dei comunisti, ma fondamentalmente nello stesso modo come un'espressione della parte monopolistica del grande capitale finanziario. La definizione che più tardi l'Internazionale Comunista diede, dittatura terroristica dei gruppi più reazionari del capitale monopolistico, Matteotti non l'avrebbe data in termini così dogmatici. Egli, socialista riformista, sapeva distinguere fra capitalismo diciamo che poteva essere liberale e democratico, e che egli identificava con quel capitalismo, identificazione molto dubbia, ma che comunque ha significato, con quel capitalismo che è favorevole alla libertà economica e parte monopolistica che li identificava col fascismo, cioè impossessarsi delle leve dello Stato per favorire una certa parte, la parte più retriva del capitalismo, quella parte che alla libera competizione non potrebbe reggere. Evidentemente definizione non campata totalmente in aria, perché nel fascismo c'era tutto questo anche, ma del tutto sbagliata nell'insieme, perché se il fascismo fosse stato solo questo, è chiaro che non avrebbe avuto né interesse a stabilire quel tipo di dittatura che si stabilì, avrebbe potuto benissimo stabilire un regime autoritario normale, con Parlamento manovrato come accade in molti paesi, e comunque non avrebbe fatto la fine che ha fatto, si sarebbe semmai attestato sulle posizioni di Francisco Franco in Spagna. Perché ricordo questi episodi che del resto sono noti a tutti? Perché è chiaro che né il modo di favorire né il modo di combattere un movimento politico rappresenta le stesse esigenze che la comprensione di questo movimento. Anzi, ci può essere addirittura un contrasto fra una retta comprensione storica di un movimento e il modo di combatterlo più efficacemente. Io naturalmente mi baso, ognuno si basa sulla filosofia propria, io su quella di Croce, c'è una distinzione fra teoria e pratica. Il modo di comprendere teorico di un movimento non coincide col modo più retto di combatterlo o di favorirlo. Sono due cose, due atteggiamenti mentali diversi. E il caso classico è proprio rappresentato da Croce. Fino a quando Croce non combatteva il fascismo, o addirittura lo favoriva, ma insomma il favoreggiamento si esprimeva nel senso che come senatore votò per il governo fascista, ma anche la grande maggioranza del Parlamento democratico liberale aveva votato i pieni poteri a Mussolini dopo la marcia su Roma. Finché era benevolo verso il fascismo, Croce comprendeva la ragione vera del fascismo e lo rimproverava appunto ai socialisti riformisti, che erano le principali vittime allora del fascismo. Il movimento massimalista bolscevico si era già screditato da solo con l'occupazione delle fabbriche del 20 e con la sua incapacità, esso che aveva sempre teorizzato la violenza rivoluzionaria, di reggere sul terreno della violenza il confronto con le squadre fasciste. Croce dunque rimproverava ai socialisti riformisti, a Durati, a Treves, Modigliani, probabilmente anche a Matteotti, rettamente, di non aver capito che cos'era la radice del fascismo, e diceva: questa è anche la ragione per cui non sanno come resistergli. Che cos'era la radice del fascismo? Croce la riconduceva, a mio avviso giustamente, all'anteguerra e proprio al fenomeno Mussolini, che era esponente di quel volontarismo irrazionalista che fermentava in tutta l'Italia e un po' in tutta l'Europa. Il professor Bracher ne parlerà a proposito della Germania, ma c'è anche in Francia. Quel volontarismo irrazionalista che l'atteggiamento mentale evoluzionista, soprattutto dei socialisti riformisti, ma anche di gran parte della democrazia liberale, considerava come un residuo del Medioevo barbaro. Dal secolo dei lumi in avanti si pensava, sì, naturalmente la violenza, le guerre esistono, ma sono un male da deprecare, da espungere se possibile, fare in modo che non risorgano, e comunque quando risorgono con una guerra a guerra finita deve riprendere l'evoluzione pacifica, legale, democratica. Ora questo era stato già smentito dall'orientamento degli animi prima del 1914. Questo volontarismo irrazionalista che ha i suoi filosofi, non tutti precursori del fascismo, perché per esempio gli americani, Peirce, James, Dewey, restarono democratici, però anche lì c'è il culto dell'azione e addirittura dell'azione eroica. Poi Bergson, che non diventò mai fascista, poi fu da ebreo, naturalmente anche penso intimamente avversario del nazismo, Sorel, che invece Mussolini studia, poi vediamo che cosa prese da Sorel, ma poi tanti altri. E un atteggiamento mentale comunque di irrazionalismo e di volontarismo che si contrapponeva alla fiducia nel progresso automatico e pacifico. Questo Croce lo vide bene e da questo punto di vista identificava bene una delle ragioni fondamentali del fascismo e anche, penso, del nazionalsocialismo. Quando invece Croce, vedendo che il fascismo aboliva le pubbliche libertà, cioè nel 1925, trasformava lo Stato liberale in Stato totalitario, poi su totalitario e autoritario torneremo, comunque aboliva tutti i partiti politici, la libertà di stampa e via dicendo, Croce diede del fascismo una definizione che viceversa fu efficacissima in sede di lotta politica e non è invece calzante, o almeno non per intero, in sede scientifica, cioè il fascismo come malattia morale. Efficacissima in sede politica. Se gli oppositori non avevano saputo combattere il fascismo, parlo sempre del fascismo italiano, negli anni della sua ascesa al potere e ancora durante la crisi determinata dall'assassinio fascista di Matteotti, poi, soprattutto con Giovanni Amendola e con Croce, che erano strettamente legati in quel periodo, opposero al fascismo la questione morale, cioè un regime di violenza, di delinquenza, di sopraffazione che va combattuto con intransigenza morale totale. Quindi malattia morale da combattere con rigore, severità morale. Dal punto di vista della lotta politica, questo fu un mezzo efficacissimo. Probabilmente si dice, ma gli oppositori erano impotenti per 20 anni. Certamente, come fa un'opposizione misurarsi sul terreno della forza, e il fascismo aveva messo, Mussolini lo disse il 3 gennaio 25, sul terreno della forza la lotta politica, con uno Stato perfettamente armato, neanche con uno Stato debole perfettamente armato, un'opposizione inerme può misurarsi sul terreno della forza, tanto più invece sul terreno può misurarsi sul terreno della forza quando ha di fronte a sé uno Stato che il fascismo aveva indubbiamente rafforzato, che disponeva di un esercito uscito vittorioso da una guerra, di una milizia di parte, di grandi masse di sostenitori disposti a usare la violenza. Quindi ci voleva una crisi internazionale perché il fascismo potesse essere messo in discussione sul terreno dell'azione effettiva, che venne 20 anni dopo, 18 anni dopo. Ma alla lunga la questione morale fu quella che rovesciò il fascismo, perché altrimenti il fascismo sarebbe potuto anche uscire dalla guerra con un compromesso, con una resa condizionata, con insomma, come uscito, perché non era neanche entrata in guerra, per l'appunto la Spagna di Franco, che poté resistere al boicottaggio del 45 perché non si era riusciti a metterla di fronte ad una questione morale che tutti gli stati, tutti i paesi, tutti i governi dovessero astenersi dal favorirlo. Franco si era visto minacciato da un simile boicottaggio, ma Inghilterra e Stati Uniti non lo accettarono nel 45. E invece Mussolini, per questa questione morale che gli oppositori gli avevano messo contro, fu boicottato davvero e dovette alla fine trovarsi con le spalle al muro. Egli non poteva far uscire l'Italia alla guerra, col fascismo non ci poteva essere transazione possibile. Arma efficace, ma come giudizio storico malattia morale non regge. È molto efficace, però se guardate da vicino, certo è più calzante la definizione malattia morale del fascismo che è quella di dittatura terroristica delle parti più reazionarie del capitalismo monopolistico, coglie una dimensione più ampia, cioè la dimensione morale che c'è in ogni uomo. Capitalismo monopolistico esiste, ha una certa forza, ma non aveva neanche lontanamente in Italia una forza tale da mettere grande parte, la grande maggioranza degli italiani dalla parte di Mussolini. Ma non regge lo stesso. Perché non regge? Perché, e questo è stato notato più recentemente da Mosse a proposito del nazionalsocialismo, ma io lo dico come testimonianza personale, che naturalmente sono molto più vecchio di Mosse. Noi potevamo interpretare, noi antifascisti, il fascismo come una malattia morale, e così gli antinazisti il nazismo. Ma quello che muoveva i fascisti non era per niente una perversione morale, al contrario, era violentissimo patriottismo, violentissimo malpatriottismo. Era desiderio di ordine, di autorità, cioè tutti i sentimenti che nella vita sono sentimenti positivi, non sono sentimenti negativi. Capisco che questo può scandalizzare qualcuno, ma è la pura verità, non solo riguardo al fascismo, ma anche riguardo al nazismo. Quello che diede forza al nazismo come al fascismo, che si riattaccava a sentimenti che sono profondi e profondamente sentiti nella maggioranza della gente. Appunto, patriottismo in certi periodi naturalmente, desiderio di ordine, di autorità, di devozione al bene pubblico, che sono anche lì sentimenti profondamente radicati nella gente, naturalmente non sempre nella stessa misura in ogni periodo, ma in certi periodi in modo preeminente comunque sono sempre latenti, cioè non sono costruzioni artificiali. Io vado più in là perché la relazione del professor Confrancesco, che non c'è ancora ma che sentiremo venerdì, me ne dà lo spunto. Ho visto in questa sua relazione che Hitler leggeva molto Karl May, un autore di libri di avventure. Ora io vi devo confessare che nella mia infanzia, io sono bilingue, anch'io leggevo avidamente in tedesco Karl May. Non sono diventata per questo Hitler, naturalmente. Anche Thomas Mann. Anche Thomas Mann leggeva Karl May. Ecco, allora questo mi... non solo leggevo Karl May, ma poi leggevo Salgari. Adesso sui giornali di stamattina avete l'ultimo episodio tragico della famiglia Salgari, uno dei suoi discendenti, cos'è, nipote, no? Figlio di suo figlio, mi pare. Ha ucciso una vecchia in Piemonte, un raptus di follia, per questo Salgari già suicida, i figli, eccetera. Insomma, una famiglia segnata dal destino. Però Karl May mi sembrava, parlo delle letture di un ragazzo di 10 anni, mi sembrava, di 11 anni, superiore a Salgari, Karl May mi sembrava cioè che ci fosse una moralità maggiore. Salgari era avventura per l'avventura, in cui vinceva il più abile, mentre in Karl May doveva vincere il migliore, mi pare, no? Eticamente il migliore. Vale a dire, noi per il fatto di essere stati e di essere anche oggi oppositori del fascismo e del nazionalsocialismo, non dobbiamo pensare, se vogliamo valutare storicamente le cose, che quello che li muoveva fosse necessariamente sempre un impulso di malvagità. Commisero fatti di una malvagità eccezionale, già gli squadristi manganellando e incendiando, non parliamo poi dei campi di sterminio della Seconda Guerra Mondiale, ma quello che dava loro forza, e spesso forza irresistibile, è che erano convinti di rappresentare invece le idee giuste, le idee che potenziavano la nazione, che la esaltavano, che la mettevano sul sentiero giusto e che valorizzavano, oltre che la nazione, anche il singolo individuo. La forza del fascismo e del nazionalsocialismo era di voler valorizzare tutti insieme la nazione e il singolo individuo, il quale in quanto diventava fascista o nazionalsocialista elevava se stesso. E questo prova appunto che da fra comprensione e combattere, comprendere e combattere un movimento, c'è questa differenza che appunto c'è e ci deve essere sempre fra teoria e pratica. È chiaro che chi combatte un movimento, per esempio chi avesse combattuto Mussolini o Hitler quando erano al potere, non poteva dire le cose che io dico adesso, anch'io non le dicevo allora, naturalmente scrivevo esattamente delle cose molto diverse da giornalista quando combattevo Mussolini e Hitler. E da storico, cioè uno quando si eleva al di sopra della parte che ha sostenuto nella vita, o si eleva al di sopra delle parti che altri hanno sostenuto, perché poi la maggior parte degli autentici storici non vengono dalla mischia politica, vengono dagli studi accademici, dagli studi scientifici, deve avere una visuale diversa. E questo è stato un lento processo nella storiografia, perché naturalmente le prime valutazioni, le prime interpretazioni del fascismo e del socialismo furono quelle, sia pure da parte di storici, di professione, dei testimoni, quelli che avevano vissuto, magari l'avevano vissuto come professori di università, come Salvatorelli. Beh, Salvatorelli aveva dovuto lasciare la cattedra proprio perché, essendo antifascista nel 21, i suoi scritti del 21 sul fascismo incipiente sono fra i più acuti che ci siano, ma insomma viveva in Italia, legalmente pubblicava libri e quindi era un testimone diretto oltre che un avversario del fascismo. E così, non so, De Ruggero, Moteo, Calamandrei, tutti insomma, e poi quelli invece di parte fascista, naturalmente Gioacchino Volpe, il maggior storico italiano di parte fascista, nei loro libri, nei loro scritti, nelle loro reminiscenze sul fascismo, lo vedevano un po' come l'avevano visto, positivamente o negativamente, durante il ventennio. Penso che anche in Germania, subito dopo la liberazione, la fine della guerra, sia successo così. Quindi interpretazione positiva o negativa del fascismo a secondo del giudizio, della esperienza, della testimonianza soggettiva di chi lo studia. Bisogna dire che da questa, che è una spirale molto importante come documentazione, ma che non può essere feconda come progresso storiografico, si è usciti attraverso molti autori. Io ne citerò due, il che non significa che io condivida tutto quello che hanno scritto, li ho criticati anche quando mi sembrava giusto criticarli, però devo riconoscere a loro il merito di aver posto il problema in termini nuovi. Il primo, in Germania, Nolte, e più che col contenuto dei suoi libri, col titolo del suo libro, Der Faschismus in seiner Epoche, il fascismo nella sua epoca. Questa era la considerazione giusta, cioè vedere il fascismo in una certa epoca, epoca caratterizzata per l'appunto dal fascismo e dal nazionalsocialismo, oltre che dal bolscevismo, su questo verrò. De Felice, con la biografia di Mussolini, più che con l'interpretazione del fascismo, che io trovo più discutibile, ma con la biografia di Mussolini soprattutto, ci ha fatto vedere il processo, come quest'uomo dall'estrema sinistra è passato all'estrema destra senza mai espellere o riuscire da espellere, perché voleva espellere in un certo momento da sé, il bagaglio che si trascinava da quando era stato all'estrema sinistra. Quindi si è passati da una visione, non dico di demonizzazione, perché demonizzare il fascismo e il nazionalsocialismo sono stati demonizzati non da storici, ma proprio allora così, da politici, così, nella propaganda. Erano sempre uomini, naturalmente i demoni ci sono, ma ci sono dentro in ciascuno di noi. Fatemi fare 2 ore di coda ad uno sportello postale per riscuotere o per pagare, e io divento nel mio intimo Hitler, naturalmente, e vorrei, vedo già come squarterei in quattro quelle impiegate che chiacchierano invece di mandare avanti il pubblico. Poi naturalmente la paura dei carabinieri, il buon senso, l'educazione mi fanno aspettare tranquillamente finché dopo 1 ora o 2 ore arrivo alla sportella. Il demone c'è in ciascuno di noi, ma la demonizzazione è assolutamente inconsistente, a meno che non consista in propaganda di guerra, la quale naturalmente durante la guerra è necessaria. Però anche lì mi riferisco a Croce, il quale nella guerra del 1914-18, quando egli ammirava la cultura tedesca, lo diceva anche durante la guerra, e non aveva torto, perché anch'io ammiro la cultura tedesca e ne parlo dopo Hitler, mentre Croce nel 1915 o 16 non poteva immaginare Hitler, che cosa avrebbe fatto Hitler. Croce, che ammirava e lo diceva la cultura tedesca durante la guerra del 15-18, a chi gli rimproverava questo atteggiamento gli diceva: ma tu in questo modo non condurresti 6 soldati al fuoco, diceva: ma io non sono un caporale. Del resto diceva: se fossi un caporale naturalmente darei la vita per la patria, ma non la verità, perché quella non ci appartiene, quella è in noi, ma ce l'ha data lo spirito, la provvidenza, Dio, la natura, quello che volete, cioè la vita per la patria, ma non il pensiero, che invece deve ricercare la verità indipendentemente dall'utilità o dal danno che ne può venire ad uno svolgimento militare o politico. Quindi una visione di ricerca della verità. Croce ancora diceva: la storia non è giustiziera ma giustificatrice, non nel senso che giustificherebbe i crimini di Hitler o l'assassinio di Matteotti o dei Rosselli o la manganellatura a morte di Amendola da parte di Mussolini e dei suoi camerati, ma nel senso che si domanda, vuole capirli, perché hanno commesso quei crimini. Ci sarà pure un motivo. Se pensiamo che ci sia una razionalità al fondo della storia, cosa che persino Hitler e Mussolini ammettevano pur nel loro irrazionalismo, ma alla fine pensavano anch'essi che ci fosse una razionalità nella storia, anche se per razionalità poi intendevano la vittoria della loro causa. Ebbene, dobbiamo domandarci per quali motivi hanno commesso i delitti, le violenze, i tradimenti che hanno commesso. Ecco dunque il passaggio dalla testimonianza alla storiografia di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo. Non è solo però il fascismo e il nazionalsocialismo che si trovano in questa condizione. Io condivido col professor Braher la nozione di totalitarismo, cioè di considerare insieme i 3 grandi movimenti dittatoriali del secolo XX: fascismo, nazionalsocialismo e comunismo. Naturalmente non ignoro le differenze che passano già fra fascismo e nazionalsocialismo, a maggior ragione fra fascismo e nazionalsocialismo da un lato, bolscevismo o comunismo come vogliate chiamarlo dall'altro. Anzi, nella mia relazione troverete che insisto molto su queste differenze, su queste contrapposizioni. Basti dire che dal bolscevismo è inseparabile, e ne ha condizionato tutta la storia, ne condiziona ancora il presente, l'idea della soppressione della proprietà privata dei mezzi di produzione, la statizzazione, prima si diceva socializzazione ma poi è diventata statizzazione di tutti i mezzi di produzione, mentre il fascismo e il nazionalsocialismo hanno sempre affermato il rispetto della proprietà privata, controllata però, disciplinata, corretta dallo Stato, ma mai abolita. Quindi già sul terreno economico-sociale c'è una differenza di fondo. Tuttavia devo dire che questo non basta, perché avevano in comune appunto l'avversione, l'odio e la soppressione di ogni pluralismo politico, di ogni liberalismo politico, di ogni democrazia liberale, parlamentare o comunque pluripartitica. E questo è un fatto fondamentale. Certo, il concetto di totalitarismo è stato valorizzato a scopi pratici, politici, che io respingevo allora e respingo anche adesso, durante la guerra fredda degli anni 50. Cioè si diceva la Russia è totalitaria, come era totalitario il regime hitleriano, e se ne traeva una conclusione politica. Siccome l'errore di fronte al regime hitleriano in Germania fu da parte delle democrazie di fargli delle concessioni anziché di affrontarlo subito sul terreno della forza, si cedette prima al riarmo della Germania, poi la rioccupazione della Renania, poi l'occupazione dell'Austria, poi quella della Cecoslovacchia, poi Memel, eccetera, e finalmente non gli si poté più concedere, ma troppo tardi gli si resistette quando chiedeva grosse parti del territorio della Polonia. Quindi un errore, questo condusse alla seconda guerra mondiale, non commettere lo stesso errore di fronte a Stalin, non fargli concessioni, Stalin o comunque il regime comunista russo, alla sua minaccia violenta opporre una minaccia militarmente altrettanto efficace. A parte la questione politica pratica, che, sulla quale non voglio entrare, dell'atteggiamento di fronte all'Unione Sovietica, è chiaro che dal punto di vista teorico questo era un atteggiamento strumentale, perché Hitler e Stalin rappresentavano non solo regimi diversi, ma nazioni diverse. Hitler aveva un programma espansionistico da realizzare, mentre Stalin, quando si affacciò come una vera potenza sullo scacchiere mondiale, cioè nel 1945, la sua espansione l'aveva già compiuta. Quello che lui voleva nel 1945 l'aveva avuto, non risulta da nessun documento che volesse nel 1945 l'Italia o la Francia. Aveva già estrema difficoltà a digerire tutti i paesi dell'Europa orientale che aveva già conquistato. Quindi si poneva in un atteggiamento totalmente diverso da Hitler nel 1933 di fronte al resto del mondo. Un atteggiamento di uno che aveva già conquistato tutto quello che per il momento voleva, futuro naturalmente nelle mani di Dio, mentre Hitler si presentava come uno che doveva ancora conquistare tutto nel 1933. Perciò il concetto di totalitarismo è stato manipolato a fini di politica pratica e per di più di una politica pratica che è risultata sbagliata, come risulta dal fatto che lungi dall'indicare la Russia, poi la Russia invece ha trovato una sua espansione non in Europa occidentale che non minacciava, ma altrove, Afghanistan, influenza in Africa, Vietnam, eccetera. Però le applicazioni strumentali e spesso erronee di un concetto non invalidano, a mio avviso, il nocciolo del concetto. Il nocciolo del totalitarismo rimane. Cioè queste dittature non possono essere assimilate a altre dittature del presente o del passato. Né del presente, perché è un'altra cosa Pinochet. Prova chi in Italia o in Germania, o in Russia per quello, avrebbe potuto scatenare dei movimenti come quelli che in questi giorni hanno luogo nel Cile contro Pinochet. Sarebbe stato del tutto impensabile, neanche il più ottimista degli ottimisti avrebbe potuto sperare in qualche cosa del genere. Né dittature del passato, del resto. Si suole spesso paragonare il fascismo a Napoleone III, ma chiunque conosca la storia del Secondo Impero vede come era molto più libera la vita nella Francia di Napoleone III che non nell'Italia di Mussolini, non parliamo della Germania di Hitler, basta vedere la produzione, i giornali, i quotidiani addirittura. Quindi totalitarismo è un fenomeno nuovo. Semmai gli antecedenti dobbiamo cercarli molto più indietro, nella storia delle chiese. Le chiese hanno voluto veramente plasmare come le dittature totalitarie l'uomo fino in fondo, la cima in fondo, cioè che credere, obbedire, combattere sia una costante di vita tutti i giorni, tutte le ore di ogni giorno, e investa ogni aspetto della vita dell'uomo e della nazione. Però le chiese sono chiese perché credono in Dio, cioè è la direttiva del trascendente, del Dio che è al di sopra di noi, che chiede una certa uniformità. Le dittature totalitarie sono tali perché non fanno appello a nessun Dio, e dall'intimo dei loro stessi regimi che ricavano la norma che si arrogano il diritto di plasmare gli uomini come vogliono. E questa è la novità del XX secolo. Cioè che dei regimi non dico atei perché il fascismo non si diceva ateo, ma diciamo immanentisti, che vogliono realizzare tutto sulla terra, che trovano la giustificazione della loro autorità tutto in fattori terreni, si arrogano gli stessi diritti che in passato, solo in rappresentanza di Dio, poi fosse Dio cristiano, ebraico o musulmano, le religioni si sono arrogate. Ma su questo discuteremo evidentemente. Io vorrei dire che naturalmente se vorrei studiare fascismo, nazionalsocialismo e bolscevismo insieme come totalitarismi, lo faccio perché senza l'uno non si spiegano gli altri. Senza il bolscevismo, la rivoluzione del 1917, il terrore, il panico e le speranze che esso accese in tutta l'Europa, anche fuori d'Europa, il fascismo non sarebbe mai potuto sorgere. E neanche il nazionalsocialismo. Mai avrebbero avuto i consensi, gli appoggi, le forze, se non avessero potuto contare sugli interessi lesi, minacciati, o sulle passioni lese e minacciate, pensate all'internazionalismo contrapposto addirittura al patriottismo e non solo al nazionalismo, che il bolscevismo rappresentava allora, volendo annullare tutte le frontiere. D'altra parte, se la paura del bolscevismo diede la forza al fascismo e al nazionalsocialismo, alla fine anche la guerra al bolscevismo, al comunismo russo, determinò la sconfitta di Hitler e quella di Mussolini. Sono dunque strettamente legati fra di loro. Poi durante tutto il ventennio si sono reciprocamente imitati. Un socialdemocratico russo menscevico, Wojtinsky, esule dall'Unione Sovietica, venne in Italia nel 21-22 e poi ha pubblicato le sue memorie che sono tradotte anche in italiano col titolo non molto felice Dalla rivoluzione russa all'economia rooseveltiana, che poi diventò consigliere economico dei sindacati operai tedeschi e alla fine dei sindacati operai americani. Wojtinsky, venuto qui vedendo le squadre fasciste, disse: ma questi hanno copiato Lenin, questo è il modo con cui Lenin ha conquistato il potere in Russia e ha vinto la guerra civile. C'è un'organizzazione diffusa nel basso, ma anche strettamente militarizzato dal centro, di violenza selettiva. D'altra parte è noto che Stalin prese sul serio Hitler e lo ammirò addirittura dopo il 30 giugno del 1934, cioè quando Hitler aveva sterminato la parte della vecchia guardia nazista che gli dava fastidio per il suo utopismo, per il suo palinginettismo. Anche Stalin disse: ma io da fare le stesse cose qui, e le fece. E le purghe non furono più lievi, anzi furono più pesanti, naturalmente per condizioni locali, nella Russia sovietica, di come non fossero state nella Germania nazista, però che non raggiunsero mai, per onore e fortuna dell'Unione Sovietica, le dimensioni dei campi di sterminio, diretti però non, allora non contro oppositori tedeschi Hitler, ma contro polacchi, ebrei, zingari e via dicendo. Quindi visti insieme, tuttavia con una differenza fondamentale. Se io dovessi in termini politici, prescindo per un momento dalla base economica sociale alla quale ho già accennato, proprietà statizzata in Unione Sovietica, proprietà privata sotto il controllo dello Stato in Italia e in Germania, ma sotto il profilo prettamente politico e anche psicologico, dovessi dire la differenza tra fascismo e nazionalsocialismo da un lato, comunismo dall'altro, direi questo: il comunismo sorse come rivoluzione. Come rivoluzione dal basso. Via via nel corso della sua storia, ormai sono 70 anni, con Stalin è diventato, o con i suoi successori, adesso si può discutere della data, è diventato un fatto controrivoluzionario, perché impedisce ogni sviluppo, ogni progresso, ogni passo in avanti, ogni cambiamento nell'Unione Sovietica medesima. E la cristallizzazione di una situazione raggiunta attorno al 1930 che non deve mutare, ogni riforma è sbagliata, se Honecker vuole andare in Germania occidentale o Gifkov il bulgaro, non devono andare perché c'è il pericolo che imitino qualche cosa che si è imparato, che la realtà ha insegnato fuori di quel modello che deve essere immutabile, proprio come nei vecchi imperi assiro babilonesi, cioè la rivoluzione che si trasforma in controrivoluzione. Col fascismo e col nazismo è accaduto il contrario. Fascismo e nazionalsocialismo hanno vinto come controrivoluzione. Controrivoluzione preventiva, ben inteso, perché in realtà il movimento rivoluzionario comunista non aveva vinto né in Italia né in Germania fra il 1918 e il 1920, o in Germania addirittura il 23. Quei tentativi rivoluzionari furono sconfitti, e furono sconfitti non già dal fascismo o dal nazionalsocialismo, ma ancora dal vecchio Stato, da Giolitti in Italia nel 1920 e ancora da governo socialdemocratico tedesco, o da quello di Stresemann nel 1923, cioè da governi perfettamente democratici. Però la paura rimase di queste rivoluzioni, e questo sentimento di paura della rivoluzione, che è poi quello che si dice contro la rivoluzione, diede un enorme slancio al fascismo e al nazionalsocialismo. Però fascismo e nazionalsocialismo non erano solo movimenti controrivoluzionari. Se lo fossero stati, avrebbero fatto la fine di Franco, che era invece un movimento controrivoluzionario, il che non toglie che anche nel file di Franco combattessero molti che speravano che la Reconquista, come si diceva, il ritorno della Spagna alla sua tradizione gloriosa con l'annullamento della Repubblica Democratica, che per Franco era una degenerazione, anche lì c'erano invece di quelli che pensavano non già al ritorno all'indietro, ma a una nuova forma di balzo in avanti, però erano caratteristicamente quelli che in realtà erano fascisti nel franchismo, ma il franchismo nel suo insieme non era un movimento fascista, perché era un movimento interamente controrivoluzionario, ripristinare la Spagna gloriosa di un tempo. Mentre il fascismo e il nazionalsocialismo volevano bensì sconfiggere ogni movimento rivoluzionario, in questo erano controrivoluzionari, ma poi fare essi la loro rivoluzione. E la loro rivoluzione la indirizzavano non solo contro il comunismo, ma contro tutto il regime liberale parlamentare preesistente, e direi contro tutto un passato che essi consideravano come troppo angusto, troppo conservatore, troppo moderato. Si trattava di creare l'uomo nuovo con la rivoluzione fascista e con la rivoluzione socialista. Questo fu la loro grande forza e fu anche la loro perdita, perché senza questo elemento rivoluzionario nel loro seno non avrebbero mai fatto la guerra mondiale. Franco non fece la guerra mondiale. Quando Hitler andò a trovarlo per dirgli di entrare nella guerra mondiale, dopo il colloquio Hitler disse: preferisco farmi togliere 4 denti che parlare di nuovo per 4 ore con Franco. Perché quello oppose una tetra e ferma e taciturna opposizione a qualsiasi prospettiva di vittorie enormi, conquista di tutta l'Africa settentrionale che Hitler gli offriva, di rivoluzione mondiale, e quello stava sull'esistente. Io ho conquistato questo, questo me lo conservo, il resto non ci voglio entrare. Così si salvò, naturalmente il regime non si è salvato, perché alla fine la democratizzazione dell'Europa ha finito col significare anche la democratizzazione della Spagna dopo la morte di Franco e un po' già prima della sua morte. Cioè un elemento rivoluzionario di conquista del mondo per creare un uomo nuovo universale, ma sul modello antico romano in Mussolini, o viceversa sulla supremazia della razza tedesca in Hitler, faceva sì che non potessero riposare sugli allori, neppure Mussolini, che pure con l'acquisto dell'Etiopia avrebbe potuto riposare sugli allori. L'elemento rivoluzionario dinamico del loro sangue li obbligava a sempre nuove avventure, e questo fu anche, per nostra fortuna, la causa della loro perdita. Quindi, processo inverso, dalla rivoluzione alla conservazione o controrivoluzione, come vogliate chiamare, da Lenin a Stalin, dalla controrivoluzione a un certo tipo di rivoluzione, rivoluzione aberrante, ben inteso, ma non è che la parola rivoluzione debba significare sempre virtù e la parola controrivoluzione sempre soltanto vizio. Queste sono terminologie. Destra e sinistra nascono dal fatto che nei parlamenti, soprattutto in Francia, gli uni si sedevano a sinistra e gli altri a destra. Se si fossero seduti quelli a destra e quelli a sinistra, parleremmo, useremmo una terminologia diversa. Del resto, voi sapete che in Italia la Resistenza è considerata, io per primo che vi ho partecipato la considero come movimento democratico, ma nella Francia della restaurazione post-napoleonica in cui questa terminologia di destra e sinistra fu acclimatata, la resistenza era il partito conservatore. Resisteva all'innovazione. Il partito innovatore si chiamava partito del movimento. Le mouvement e la resistance era la conservazione, la restaurazione, la monarchia assoluta o comunque semi-assoluta, l'innovazione, il liberalismo, la democrazia, il futuro socialismo, erano il movimento contro la resistenza. Cioè le parole evidentemente cambiano di significato, dobbiamo andare dietro. Forse io sono stato troppo lungo, facciamo un momento di pausa e poi verrò su qualche altro argomento alla ripresa. Va bene così? Benissimo. Sì, se credete, così vi do un momento di respiro perché mi avete subito pazientemente. Permettimi adesso di vedere un po' i fattori più profondi, o perlomeno temporalmente anteriori al pieno sviluppo del totalitarismo fascista e nazionalsocialista. Qui adesso per il momento prescinderò dal comunismo, della vittoria, del sorgere della vittoria di questi due regimi. Più vicino nel tempo ad essi, naturalmente anche a noi, ma ad essi era vicinissimo, la guerra del 14-18. È stato detto, sottolineato, che i nazisti e i fascisti erano in gran parte uomini venuti dalle trincee, giovani che avevano combattuto la guerra mondiale e l'avevano combattuta non già come semplicemente dovere imposto dalla legge, dalla necessità, ma in fondo deplorando che ci fosse questo massacro. Non quelli che davano ragione, anche se difendevano poi strenuamente la loro patria, al pontefice del tempo Benedetto XV, che diceva è un'inutile strage, o agli altri spiriti europei che consideravano quella guerra come una guerra fratricida fra nazioni, Roma e Roland per esempio, che avevano la stessa civiltà, gli stessi costumi, in fondo con qualche differenza le stesse istituzioni economiche e sociali, e malgrado che in Germania e in Austria non ci fosse parlamentarismo, per esempio in Ungheria c'era, e in Russia viceversa dall'altra parte non c'era, in fondo anche le stesse istituzioni politiche pluralistiche. Ma altri più giovani di loro, di spiriti diciamo più equanimi, avevano combattuto la guerra con fanatismo, con gioia, ma con voluttà, perché consideravano che finalmente potevano dar prova del loro valore. E sicuramente Hitler, per esempio, era uno di questi. Soldato ignoto che già non aveva avuto nessun successo nella vita prima del 14, dipingeva cartoline illustrate. Nella guerra si rivelò buon soldato, almeno le testimonianze che abbiamo, naturalmente tutto è controverso. Mussolini certamente era un capo politico notevole già prima del 14, era il capo del Partito Socialista Italiano, che era un grosso partito, però insomma fu la guerra a renderlo uno dei candidati alla possibili alla direzione dell'Italia, perché come capo del Partito Socialista non avrebbe potuto esserlo a meno di una rivoluzione totale, e per questo che mancassero le forze egli se n'era già veduto durante la settimana rossa del giugno 1914. Ma solo Hitler, qui sono due trattanti, non è che abbiano creato il fascismo e il nazismo da soli. Sono migliaia e migliaia di combattenti del fronte, generazione delle trincee è stata chiamata, che avevano fatto un'esperienza di affermazione della loro personalità in guerra, per coraggio, temerarietà, audacia o capacità di resistere alle intemperie, alle difficoltà, e avevano preso anche gusto nell'uso delle armi, il fascino sottile delle armi, che del resto l'abbiamo ritrovato nei terroristi nostrani. Uno di loro parlò di questo fascino sottile delle armi in un processo 7-8 anni fa. Generazione delle trincee, la quale rimase con la bocca amara alla conclusione della guerra, intanto perché la Germania, che sembrava vittoriosa, all'ultimo momento aveva perso, e questa sconfitta fu attribuita addirittura dal capo di Stato Maggiore dell'esercito, che poi fu uno dei battistrada di Hitler, senza essere ovviamente nazista, il generale Ludendorff aveva lanciato lo slogan del colpo di pugnale nella schiena dell'esercito invitto, Dolchstoss. La Germania, tradita dai socialdemocratici, dai pacifisti, dagli ebrei, che aveva frustrato l'esercito vittorioso del suo trionfo. In Italia la vittoria c'era stata. Trento, Trieste, Pola, Fiume, liberati. Ma vittoria mutilata, disse subito il maggior poeta italiano dell'epoca, D'Annunzio, perché non aveva avuto la Dalmazia, che era stata Veneto, ma in quel momento era già nella sua stragrande maggioranza abitata non più da italiani, ma da slavi. Quindi questa generazione delle trincee, che si trova con la bocca amara, poi anche per ragioni più prosaiche, perché quelli che comandavano un plotone, un reparto, una compagnia, un battaglione, poi si trovano disoccupati al termine della guerra, o più tardi durante la grande crisi, e non sanno come guadagnarsi da pane. Il pane dovrebbero fare i piccoli impiegati, se trovassero impiego, assunzione, mentre erano stati già dei piccoli capi in momenti di grande drammaticità e pericolosità. Quindi generazione delle trincee, con anche una certa solidarietà fra costoro, per esempio, i fascisti inizialmente, poi non più perché Amendola, che era stato un valorosissimo combattente, fu manganellato poi a morte dagli squadristi, ma questo nel 1925, ma inizialmente nel 21 rispettavano quelli che erano stati veramente in prima linea anch'essi, se le pigliavano, e questo naturalmente fu una delle ragioni della loro vittoria, con quelli particolarmente socialisti e soprattutto operai, che erano adibiti a produzioni belliche indispensabili naturalmente della guerra, non avevano fatto la vita in trincea, che si trovavano per questo anche in condizioni di inferiorità fisica verso chi era stato per 3 o 4 anni in trincea e aveva preso l'abitudine di maneggiare rivoltelle e bombe. Naturalmente uno che non ha mai avuto una rivoltella o una bomba in mano si trova in inferiorità verso chi questi strumenti li ha maneggiati, pugnali, eccetera, li ha maneggiati centinaia di volte in 3 anni e mezzo di guerra, ma appunto una certa solidarietà che portò molti ex combattenti a tollerare o a simpatizzare col fascismo, e penso anche in Germania ci fosse qualche cosa del genere, mentre lì il processo fu più lungo, perché il fascismo vinse in 2 anni, il nazismo ci mise 13 o 14 anni. Ma la generazione delle trincee aveva anche un retroterra prebellico, l'insoddisfazione per la democrazia parlamentare, che funzionava male già prima della guerra. Non occorre che vi dica come funziona male adesso, naturalmente non vi voglio insegnare le cose che tutti sapete. Quando avete delle pratiche con la pubblica amministrazione, problemi della scuola, problema dell'università, dei concorsi, delle unità sanitarie locali, del funzionamento dei servizi pubblici, il fisco e via dicendo, tutte queste cose funzionavano male anche prima del 1914, non naturalmente nella stessa misura in Italia e in Germania, perché in Germania la pubblica amministrazione funzionava benissimo, in Italia funzionava male anche allora, ma come? Sogutau, tanto bene anche in Germania, ma anche in Germania si considerava che tutto quello che non andava era dovuto alle lentezze, alla paralisi al mercato delle vacche del Parlamento. Il Parlamento tedesco non aveva tutti i poteri che aveva il Parlamento italiano, non dipendeva da esso la vita del governo, però le leggi dipendevano anche in Germania dal Parlamento e il Parlamento era lento a votare leggi anche allora, e spesso le leggi erano non adeguate anche in Germania. La critica alla democrazia parlamentare era virulenta prima del 14, ma non era così solo in Italia. Anzi, i teorici dell'antiparlamentarismo maggiori in Italia ce n'erano naturalmente, Mosca, Turiello, Pareto, ma i maggiori, quelli che hanno avuto influenza più forte, erano in Francia, dove la democrazia parlamentare era più avanzata. Starei per dire che più avanzata era la democrazia parlamentare, più le sue difficoltà, le sue lentezze, i suoi compromessi sui mercati delle vacche erano visibili. E la teoria antiparlamentare era più sviluppata proprio in Francia, però aveva maggiore seguito in Italia e in Germania. E in Italia e in Germania si può dire che aveva una base sociale vasta, che in Francia non aveva. In Francia erano dei teorici, poi un certo numero forse di studenti, soprattutto quelli dell'Action Française. In Italia, in fondo, i ceti medi, intendendo in questo caso per ceti medi i ceti medi istruiti, non parlo in questo caso di quelli che poi vanno conglobati nelle categorie dei ceti medi, intendendovi, non so, i piccoli e i medi proprietari terrieri, che erano allora in fondo fuori della vita politica, in Italia soprattutto, e credo anche in Germania fossero nella vita politica soprattutto come rappresentanze di interessi, quando si discuteva di dazi doganali, l'Italia è un paese di molte città, la Germania anche, e quindi i ceti medi urbani, che sono necessariamente più istruiti perché hanno fatto scuola, perché i loro mestieri, le loro professioni spesso esigono la laurea o quantomeno un diploma, costituiscono grandi masse, e certamente la critica antiparlamentare era più diffusa fra i ceti medi. Naturalmente questo non significa che il fascismo e il nazismo fossero solo movimenti dei ceti medi, erano anche movimenti dei ceti medi. Salvatorelli vide molto bene, sin dal 1921, l'importanza dei ceti medi nel fascismo, che si difendevano da un lato contro il capitalismo, dall'altro contro il proletariato, che l'uno e l'altro volevano proletarizzarsi lì, o almeno i ceti medi immaginavano che il grande capitalismo, espropriando con le sue grandi aziende piccoli esercenti, piccoli artigiani, volesse proletarizzarli, e che il movimento operaio socialista e sindacale con le sue rivendicazioni rendesse ad essi difficile l'esistenza e volesse proletarizzarli. Però non era tutto il fenomeno. Un giornalista italiano e anche politico di grande ingegno, che allora era poi diventato deputato socialdemocratico nel secondo dopoguerra, anche un notevole letterato, ma allora era redattore dell'Ordine Nuovo di Gramsci, Umberto Calosso, per fare la cronaca delle squadre, delle spedizioni punitive delle squadre fasciste, si mascherava come giornalista, non dell'Ordine Nuovo naturalmente, perché l'avrebbero manganellato a morte, ma di chissà quale giornale senza colore politico, e seguiva gli squadristi nei loro camion, nei loro autocarri, nelle spedizioni punitive. E constatò che molti di questi squadristi non appartenevano affatto ai ceti medi, agli studenti, eccetera, erano operai. E lo scrisse in recensione del primo importante libro sul fascismo italiano, che fu scritto da un antifascista, Nascita e Avvento, di Angelo Tasca, perché Tasca, riprendendo Salvatorelli, aveva parlato del fascismo come movimento dei ceti medi, e Calosso aveva notato su un'esperienza del vivo che era unica del genere, perché lui era stato su quel camion delle spedizioni punitive squadristiche, che gli operai erano non meno numerosi proprio lì dove si manganellava dei ceti medi, naturalmente operai che erano stati in trincea, perché non tutti gli operai erano nelle industrie belliche, molti erano anche. E ho visto recenti studi, Catere, poi un altro che ha scritto un libro recentemente sulla composizione sociale delle squadre d'assalto, non so se il professor Bracco, come? Fischer. Forse Fischer. Quanto era alta la percentuale di operai, di proletari, nelle squadre d'assalto naziste. Comunque un movimento soprattutto di ceti medi. E qui c'è forse da dire qualche cosa. Perché questa democrazia parlamentare così avversata dai ceti medi in Italia e in Germania, eppur essendo invece in sede teorica e del resto con motivi giustificati, avversata anche maggiormente in Francia, i ceti medi francesi non si associarono né allora né dopo al movimento antiparlamentare fino alla sconfitta della Francia nel 1940, quando invece si schierarono anche lì essi e tutta la Francia, del resto salvo la piccola minoranza gollista o comunista, con il maresciallo Pétain. E io forse risalgo troppo indietro nel tempo, ma mi pare che occorra risalire indietro nel tempo. La democrazia in Italia e in Germania è di importazione straniera, ed è importazione francese. Gli alberi della libertà furono piantati dagli eserciti della Rivoluzione francese, ma erano eserciti conquistatori e spogliatori, che delusero i ceti medi. I ceti medi, o almeno la parte più istruita, li salutarono entusiasticamente quando calarono prima in Italia, poi varcarono il Reno e dilagarono in Germania gli eserciti della Rivoluzione, che però erano già campeggiati in Italia, poi anche in Germania, se non direttamente, da Napoleone Bonaparte. Ma poi questi spogliavano, imponevano tributi, saccheggiavano, insomma si comportavano da quei conquistatori che erano. E non solo, ma sacrificarono i loro sostenitori, perché naturalmente paggeggiarono poi con i vecchi regimi per avere un'amministrazione, col, perlomeno col personale dei vecchi regimi, per avere un'amministrazione che funzionasse a modo loro. Le masse popolari, soprattutto in Italia, le erano totalmente contro. Persino in Piemonte i giacobini italiani non potevano uscire di città perché i contadini gli sparavano. Non parliamo del sud, naturalmente, il cardinale Ruffo, le masse lì. In Germania la questione più controversa, anche perché abbiamo due storiografie tedesche, l'una più realistica della Germania occidentale, l'altra più mitica della Germania orientale, che invece dà maggior supporto di massa al giacobinismo tedesco. Ma mi sembra che fondamentalmente si possa dire che, pur con le dovute differenze, in fondo il giacobinismo avesse deluso e la Germania e l'Italia, e soprattutto quelli che erano più istruiti e che quindi potevano osservare questo fenomeno con occhio critico, perché naturalmente i contadini che si rivoltavano non avevano la cultura, l'istruzione necessaria per osservare con occhio critico questo, e cioè i ceti medi che appunto nella democrazia non videro quei benefici che la Rivoluzione francese aveva promesso. E tutto il lungo della storia del secolo XIX voi avete una grande difficoltà di acclimatamento della democrazia sia in Italia che in Germania, soprattutto nell'opinione colta. Naturalmente gli interessi lesi, le oligarchie, i grandi proprietari terrieri, le vecchie aristocrazie, si capisce, si oppongono alla democrazia, ma queste si erano opposte alla democrazia anche in Inghilterra, per esempio. L'Inghilterra rimase un'oligarchia aristocratica fino alla seconda metà del secolo XIX, però poi il passaggio è avvenuto, l'Inghilterra è diventata democratica in tutti i suoi ceti, non così la Germania e l'Italia, prima della caduta del fascismo e del nazismo. Perché non solo le vecchie classi dominanti, ma una parte considerevole dei ceti colti avevano paura di questa democrazia. Una parte evidentemente si riconvertì alla democrazia durante le rivoluzioni del 1848. Ma la sconfitta delle rivoluzioni del 1848 e in Italia e in Germania rappresentò di nuovo una delusione per le speranze democratiche e di nuovo un rafforzamento dei concetti che perlomeno insegnavano prudenza verso la democrazia o addirittura erano critici verso la democrazia. Poi lentamente, molto più in Italia che non in Germania, la democrazia si diffuse, ma appena si era diffusa col la svolta di Giolitti dell'inizio del secolo XX, già 10 anni dopo di nuovo abbiamo, ne ho già accennato, con l'antigiolittismo una nuova reazione antidemocratica. Di fronte a questo, che cosa rappresentavano fascismo e nazismo. C'era dunque una tradizione antidemocratica che era non solo delle vecchie oligarchie, ma era di vaste masse, soprattutto dei ceti colti, che sono molto importanti. Si dice sempre dell'importanza delle masse nella storia, ma aveva già ragione Pareto, più indietro, Mosca, poi più indietro ancora Machiavelli, naturalmente gli antichi, i meno menano i più, diceva un poeta italiano. Io sono stato per qualche mese in India, poco dopo l'indipendenza, nel 1952, ci ho speso 5 mesi, e ho parlato un po' con tutti i capi di un enorme movimento di massa, quello che ha condotto l'India all'indipendenza. E unanime osservazione di tutti, la politica in India, dicevano, questo 4 anni dopo l'indipendenza, è affare dei ceti medi, dei ceti colti. Le masse sì, si muovono, si ribellano, ma non pesano sulla vita politica. Questo è naturalmente eccessivo, questi erano dei socialisti, Nero era un socialista, che dice, dei rivoluzionari, però constatavano la realtà. A maggior ragione naturalmente in Italia e in Germania, dove le masse erano entrate col movimento socialista, i sindacati operai sulla scena, ma pesavano sempre meno dei ceti medi. Quindi questi ceti medi erano disponibili, poi naturalmente di fronte al pericolo di un'autentica rivoluzione operaia o contadina delle masse, le forze reazionarie e controrivoluzionarie che sostennero il fascismo e il nazismo. Che cosa portò però di nuovo il fascismo e il nazismo? In questo generale movimento antidemocratico, fra virgolette, perché poi anche il fascismo e il nazismo pretesero di essere democratici avendo il sostegno delle masse, ma in realtà erano antidemocratici, se per democrazia si intende appunto la democrazia parlamentare, pluripartitica, liberale, come rettamente va intesa. Portarono, direi, 3 elementi. Uno, il capo carismatico. Questo era stato già teorizzato, naturalmente, Weber, Max Weber, eccetera, tanti autori, poi dall'antichità in avanti, poi Garibaldi stesso in Italia era fautore della dittatura, perché diceva in un momento di grandi trasformazioni ci vuole un capo che comandi, gli altri che seguano. Ma insomma, di capi carismatici, dopo Napoleone I, non si erano più visti. Mussolini, Hitler e Lenin, naturalmente, in Russia, e Stalin poi ancora più di Lenin, lo furono. Lo furono per le loro doti, ma non è che fra Napoleone I e Hitler e Mussolini non siano nati, è improbabile, uomini che avessero uguali doti, probabilmente erano nati, le condizioni non gli consentivano di diventare capi carismatici se l'impero austro-ungarico non crollava, probabilmente Hitler capo carismatico non sarebbe mai stato, Mussolini come capo del Partito Socialista sì, ma in quel posto e quindi senza la possibilità di conquistare il potere a meno di una improbabile rivoluzione proletaria vittoriosa. Non parliamo di Lenin o di Stalin, senza la sconfitta in guerra della Russia sovietica rimanevano in esilio in Siberia o in Svizzera. Comunque il capo carismatico. Secondo, capo carismatico idealizzato, concettualizzato, istituzione fondamentale di questo regime. Secondo elemento, il partito. Se non c'è il partito, il fascismo e il nazismo, naturalmente, e il bolscevismo, non possono vincere e durare. Ci vuole il partito, altrimenti si va a una reazione di vecchio tipo come con Franco in Spagna o come con Orti in Ungheria. Un partito, ma un partito che sia partito di masse, che mobiliti grandi masse, partito gerarchico, centralizzato, ma anche localmente autonomo nel senso di potersi adeguare alle varie situazioni di ogni regione, zona, frazione, e che inquadri, disciplini, mobiliti delle masse e gli dia naturalmente, se non altro, la soddisfazione di sentirsi qualche cosa di importante. La conquista totale dello Stato e la subordinazione dello Stato stesso ai fini della rivoluzione fascista o nazista, naturalmente con molto maggior giustificazione come parola rivoluzione, non per le atrocità che Stalin commise in Unione Sovietica. Capo partito di massa, rivoluzione. E vengo al mito della rivoluzione. Mito della rivoluzione che naturalmente viene dalla rivoluzione francese, qui non ci sono dubbi, se la fotta Rousseau, no? La colpa è di Rousseau, però io anche quando Talmon, che è un ottimo storico naturalmente, deduce il bolscevismo da Rousseau, faccio sempre qualche riserva, cioè ci sono gli anelli intermedi naturalmente, il comitato di salute pubblica prende certe misure, e soprattutto la sua sinistra, che però Robespierre mandò alla ghigliottina, gli ebertisti della prima Commune di Parigi, poi Babeuf, Blanqui, Lenin era un blanquista, oltre che un marxista, Marx stesso valorizza il mito della rivoluzione francese, pur mettendolo contemporaneamente anche alla berlina, dicendo volevano, sognavano di ripristinare la Repubblica Romana, quando introducevano semplicemente il capitalismo dell'economia di mercato libera. Insomma, questo mito della rivoluzione esiste, però verso la fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, il vecchio mito della rivoluzione francese si esaurisce e viene un nuovo mito della rivoluzione. E qui naturalmente si potrebbe parlare anche di Nietzsche, ma io su questo lascerei naturalmente al professor Braca, che è molto più convincente di me. Vorrei parlare un momento invece di Sorel, perché per Hitler certo no, non credo che Hitler abbia letto Sorel, ma Mussolini veramente lesse Sorel. E Sorel che cosa diceva in sostanza? L'importanza del mito, anche del mito della rivoluzione, che però egli non riconduceva necessariamente al mito della rivoluzione francese. Sorel era francese ma era antigiacobino, si scriveva nell'altra corrente, pur essendo uomo di estrema sinistra, perlomeno allora, si scriveva nell'altro filone della storia della Francia, del filone cioè che la rivoluzione non è stata quella cesura fondamentale che voleva essere, che i profondi valori della storia della Francia continuavano anche dopo la rivoluzione, che la rivoluzione era stata largamente utopistica e che la rivoluzione proletaria che egli auspicava, la cui realizzazione affidava ai sindacati operai, non dovesse richiamarsi al giacobinismo del 1793, né per il terrore né per lo statalismo, ma qualche cosa di più profondo. Nelle cose più profonde egli metteva il mito, cioè nella sua interpretazione della storia la razionalità ha sempre avuto isole limitate di sfera d'azione, le masse si sono sempre mosse con i miti, miti religiosi, miti di ogni genere, e certo questa è un'osservazione che poi la moderna storiografia sociale francese, mi riferisco a Lucien Febvre, a Marc Bloch, ha rivalutato l'importanza dei miti nella storia. Ma Sorel non era storico, era un uomo che studiava la storia, ma era fondamentalmente un, non potrei dire teorico politico, perché teorico in senso stretto non era, diciamo era un agitatore di idee politiche e sociali, e il mito come forza politica rivoluzionaria o viceversa controrivoluzionaria fu Sorel a rigalvanizzarlo, è un mito che non deve essere necessariamente quello giacobino, razionalista dell'uguaglianza degli uomini, del contratto sociale e via dicendo, ma poteva essere un mito invece anche opposto, di una storia più lunga e organica. Mussolini prese questo da Sorel senza dubbio. Lo prese non solo da Sorel, lo prese anche da versioni più popolari, Gustave Le Bon, Psicologia delle folle, che seguono appunto il capo che sa disciplinare, tutte cose che si trovano naturalmente anche indietro con secoli, millenni nel tempo. E soprattutto prese da Sorel il culto della violenza. Cioè Sorel pensava che in fondo la storia, ecco perché era anche anti-giacobino, non fosse soltanto una violenza diciamo, catartica di un certo momento, dopodiché viene l'evoluzione legale, come in fondo pensavano i giacobini. Pensava che questo fosse un elemento insito in tutta la storia, in ogni periodo, e che quindi anche la rivoluzione proletaria non potesse fare a meno di questa violenza, e non soltanto con un episodio come in Blanqui, conquista del potere con la violenza, diceva Blanqui, un anno di dittatura di Parigi sul resto della Francia, poi democrazia. Per Sorel questa era un'ingenuità, era permanentemente nella storia questa funzione catartica della violenza, che egli legava strettamente al mito, perché era la violenza che traduceva il mito in azione. Su tutto questo varrà la pena di discutere, sul mito soprattutto, quando il professor Gentile ci parlerà del mito del fascismo. Il terzo elemento di Sorel, i sindacati operai, certamente ha avuto un'influenza del fascismo. Quasi tutti i fascisti sono venuti dal sindacalismo rivoluzionario, salvo Mussolini. E ho letto recentemente una specie di memoria, perché non sono autentiche memorie, di Dino Grandi, che fu un po' un antagonista di Mussolini dal principio alla fine, pur servendolo fedelmente, che Grandi negava a Mussolini di essere mai stato sindacalista. Diceva, sindacalisti eravamo noi. Mussolini era sempre un puro politico, proprio quel politico giacobino che Sorel detestava. E su questo potremmo discutere. Però il mito è mito proprio perché le idee non si realizzano come gli iniziatori del mito pensano. Sorel affidava il mito ai sindacati operai. Ma per esempio Corradini, il teorico del nazionalismo italiano, che ha avuto molta influenza nella preparazione fra l'opinione pubblica del fascismo, anche se nella storia del movimento fascista non ha avuto nessuna importanza. Corradini, sin dal 1908, in una famosa conferenza, poi in vari scritti, aveva capovolto il mito di Sorel, che gli aveva studiato. E da nazionalista aveva studiato anche l'organizzazione del Partito Socialista, che è il primo partito di massa. Questo però vale anche per Hitler, il quale studiò la socialdemocrazia austriaca, che vedeva Vienna, e del resto il primo partito, che si chiamava Partito Operaio Nazionalsocialista, era nato in Austria prima del 14, senza Hitler ben inteso, proprio per contrapporre da parte nazionalista una forza di massa organizzata simile a quella della socialdemocrazia, dove un'elite poteva dirigere e mobilitare grandi masse. E non era solo un fatto tedesco, perché un partito operaio nazionalsocialista esisteva anche in Boemia, da parte ceca, in Boemia da parte dei boemo-tedeschi, e in Boemia da parte dei boemi cechi, Klofac naturalmente, che avevano gli stessi obiettivi, ancora non slegati dalla democrazia parlamentare, perché si facevano eleggere deputati, ma in fondo appunto di imitare la socialdemocrazia da nazionalisti. Corradini studiò il movimento socialista, però, e quindi il suo interesse anche al sindacalismo. Però vide che la teoria sindacalista poteva essere capovolta. Invece della contrapposizione intransigente fra proletariato e borghesia, c'era la contrapposizione fra nazioni proletarie e nazioni ricche, plutocratiche e capitalistiche, che allora era una proiezione. Italia e Germania nazioni proletarie, Inghilterra, Francia, gli Stati Uniti non si parlava ancora, nazioni plutocratiche e capitalistiche, ma è diventata poi una realtà, e lo è ancora tutt'oggi, perché questa contrapposizione fra nazioni povere e nazioni ricche continua a tutt'oggi. In questo veramente Corradini fu profetico, purtroppo, sventuratamente, ma naturalmente furono degli uomini politici, appunto, Mussolini e Hitler, poi dall'altra parte Lenin, Stalin, che contrapposero politicamente le nazioni cosiddette proletarie alle nazioni ricche. Non fu più un problema di capovolgimento intellettuale della teoria di Sorel, ma uno strumento straordinariamente efficace di mobilitazione di popoli, anche in guerra. E questo continua, naturalmente, perché se guardate la storia degli ultimi 35 anni, Nasser, Gheddafi, Khomeini, dall'altra parte Tito, Mao Zedong, Castro, Ho Chi Minh, poi Tito si tirò fuori, saggiamente, lo Stalin lo costrinse a tirarsi fuori, Ho Chi Minh Mao Zedong, i quattro, anche lì si sono saggiamente tirati fuori, America Latina, insomma il problema delle nazioni ricche e delle nazioni proletarie, per inconsistente che sia dal punto di vista dell'analisi economica, perché nessuna nazione proletaria è riuscita a arricchirsi a spese delle nazioni ricche, sono riuscite soltanto a deprimere il livello di vita come accaduto con Khomeini nell'Iran, però le rivoluzioni nazionaliste proletarie le ha fatte. Ultima considerazione, con questo concludo, la nota, se volete, più tragica per noi che siamo intellettuali: quello che caratterizzava fascismo, nazionalsocialismo e caratterizza ancora il comunismo di tipo sovietico, non certamente il comunismo di tipo italiano e non più neanche il comunismo di tipo cinese o jugoslavo, ma il comunismo sovietico ancora sì, e l'unità indistinta di pensiero e d'azione, che è una rivendicazione, un'esigenza, un'aspirazione di per sé quanto mai spontanea. Che cosa c'è di più bello se non un uomo che così pensa, così agisce? Non c'è discrepanza tra il pensiero e la sua azione. Un grande italiano, l'artefice prima del risorgimento italiano, Mazzini aveva come divisa pensiero ed azione, ed è giusto. Soltanto, nella vita le cose giuste sono anche quelle che generano le cose ingiuste. C'è una dialettica, quale che sia la vostra filosofia, nella storia, per cui ogni cosa porta con sé anche il suo contrario. Uniformità, coerenza fra pensiero e azione è una bellissima esigenza, è una grande forza, ma se l'unità è indistinta fra pensiero e azione, il pensiero diventa sempre strumento dell'azione e perde la sua capacità critica. Nella fusione fra pensiero e azione, il pensiero è il vaso di coccia e l'azione il vaso di ferro. Il potere politico subordina a sé qualunque pensiero che si unisca ad esso e ne fa strumento docile. La tragedia l'abbiamo vista dappertutto e particolarmente in Italia con Gentile, il quale si separò da Croce proprio su questo problema. Croce voleva l'unità dialettica di pensiero ed azione, ma anche la distinzione. Quello che dicevo prima, tutto dobbiamo sacrificare allo Stato, alla patria, ma non la verità, perché quella non ci appartiene. Quello è indipendente dalle esigenze dello Stato, della patria, della classe, del partito. Gentile invece, già prima della guerra, poi durante e dopo la guerra, no, il pensiero è esso stesso azione, siccome, e questo è certamente vero nel senso che il pensiero non è riflesso passivo della realtà che ci circonda, non è semplicemente la fotografia passiva della realtà, perché già la fotografia modifica in realtà la realtà che viene fotografata. La realtà nella fotografia dipende anche dall'arte del fotografo e non soltanto da quello, dall'oggetto fotografato. A maggior ragione il pensiero. Il pensiero, riflettendo sulla realtà, modifica la realtà stessa, è un'attività, non uno specchio, è un'attività. Però se l'attività del pensiero viene concepita nel senso che quello che si pensa può essere tradotto in azione così come sta, indipendentemente cioè dal fatto che l'azione è condizionata da forze reali che sono indipendenti nell'immediato, anche se alla lunga ci può essere una cancellazione plurimillenaria, ma plurimillenaria naturalmente, perché il pensiero poi è anche l'azione, del resto dipende dal cervello che si modifica in milioni di anni. Questo i materialisti dell'Ottocento non lo sapevano, vedevano il materialismo nell'assetto sociale, non nel cervello. Ma comunque, se il pensiero si unifica indistintamente con l'azione, e l'azione è un partito, uno Stato, una Chiesa, un governo, un gruppo di interessi, e il pensiero ne diventa, lo voglio o lo servo, e così accadde a Gentile, che cercò di influire sul fascismo, ma in fondo fu influenzato lui dal fascismo. Il suo punto di partenza era un po' Mazzini, pensiero e azione, coerenza, infatti egli dava un'interpretazione fascistica di Mazzini, che è evidentemente molto discutibile, ma in Mazzini c'era tutto, non era un uomo d'azione più che un pensatore, comunque c'era tutta la sua epoca, la prima metà dell'Ottocento. Nella prima metà del Novecento questi problemi si ponevano diversamente, perché esistevano già delle forze che potevano strumentalizzare i pensieri. Nella prima metà dell'Ottocento, tolta la Chiesa, che però era sulla difensiva, ben pochi strumentalizzavano i pensieri. I governi assolutisti disprezzavano i pensieri, come il re dell'Hannover, che diceva, quando dei professori di università lo criticarono, o comunque non vollero obbedirgli su, non so più che il giuramento, sì, sul giuramento, disse: ballerine e professori di università posso sempre trovare sul mercato, sulla piazza, quindi se ne vadano pure. Nel secolo XX non più così, anche il fascismo impose il giuramento dei professori di università, ma dopo che era sicuro che tutti, salvo 11 su 2000, avrebbero giurato, cioè dopo che li aveva già reclutati, cioè dopo che nella fusione indistinta di pensiero e di azione, l'azione aveva preso, come ovvio, la preminenza sul pensiero. La tragedia personale di Gentile la conoscete, non la voglio ripercorrere. Certo è che i gentiliani in gran parte poi diventarono antifascisti. Il movimento liberal socialista soprattutto, che fu poi il nervo del Partito d'Azione, ma che ebbe molti militanti anche passati al Partito Socialista o direttamente al Partito Comunista o tornati al Partito Liberale, viene da gran parte da Gentile, probabilmente ribellandosi al fascismo di Gentile. Molto più tragico questa identificazione fra pensiero ed azione in Russia. Fu un teorico del comunismo, non russo però, ungherese, Lukács, che partendo, così come erano partiti Croce e Gentile da Hegel, aveva studiato in Germania, hegeliano di stampo tedesco, aveva identificato pensiero ed azione dicendo: la teoria rivoluzionaria sarà quella che permerà di sé la rivoluzione. Altrimenti è avvenuto il contrario. La rivoluzione prima impose alla teoria di non toccare certi argomenti, a Lukács stesso per cominciare, poi di dire su certi argomenti quello che era il dogma in quel momento del capo del partito. Quando gli cambiava dogma, anche il pensiero doveva cambiare quello che doveva dire. E siamo arrivati al punto che oggi vediamo nell'Unione Sovietica, che Lukács deplorò durante la rivoluzione ungherese del 1956, cioè che nessun pensiero può essere enunciato perché ha raggiunto una certa maturazione nella testa di pensatori, storici, esteti, filosofi, sociologi, via dicendo, ma deve essere il partito che dice: questo è autorizzato, questo non è autorizzato, da cui viene la sterilità intellettuale di una delle maggiori letterature del mondo, quella russa, e solo all'estero può esplicarsi intellettualmente, che all'estero vi dimostra di quali tesori intellettuali sia ancora carica con gli scrittori che sono venuti in Occidente, ma anche la sterilità, che può essere molto più grave, del pensiero filosofico, sociologico, storico, economico russo, che anch'esso, soprattutto per esempio fra gli economisti, aveva raggiunto vette altissime e adesso è totalmente sterilizzato. Ed ecco dunque la mia conclusione, che vecchia come quanto il mondo: di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno. Quando manca lo spirito critico nell'azione il riferimento a qualche cosa che eleva l'uomo, anche se agisce, ogni uomo agisce, al di sopra della sua azione, in una posizione di autocritica, di esame di coscienza, manca il sale della terra e tutto diventa strumento, spesso inconsapevole, non più controllato, incontrollabile, di forze cieche della natura. La lezione di fascismo, nazionalsocialismo, in parte comunismo, perché il comunismo invece partiva da un'esigenza razionalistica, non irrazionale come il fascismo e il nazismo, ma insomma la comune esperienza, la comune lezione di questi totalitarismi e, non oserei dire, la rivoluzione della democrazia parlamentare, che tuttavia noi dobbiamo difendere e che spero riusciremo a difendere in Italia, ma la rivoluzione dello spirito critico, e questa naturalmente è l'unica consolazione che degli studiosi di storia possono avere, perché, diceva Hegel, si consiglia ai principi e ai reggitori di studiare la storia, ma se la studiassero sul serio vedrebbero che nessun principe ha mai voluto imparare dalla storia. E quindi in questa sconfortante conclusione di Hegel, però il fatto che ci sia l'omicino dello spirito critico, che del resto Hegel cercava di tenere vivo anche lui, anche se non sempre gli riusciva, è ancora l'unica giustificazione del nostro difficile mestiere. Ringrazio l'amico Valiani per la sua magnifica, illuminante, tanto suggestiva esposizione, che ha spaziato tutto il dramma della storia moderna, non solo europea, non solo italiana e tedesca, ma anche europea e anzi mondiale, e che credo che ha dato molta stoffa per le nostre discussioni future, e credo che adesso facciamo subito, scendiamo nel pian terreno per presentarci a vicenda. La discussione di solito i relatori presenti e si presentano dicendo in due parole, proprio due, da dove vengono e se hanno interessi particolari. Von den Teilnehmern. Jetzt, bevor wir in die Diskussion gehen, da kann sich vielleicht auch das setzen, was man an Diskussionsbeiträgen dann bringen will. Bevor wir in die Diskussion gehen, machen wir, um uns gegenseitig kennenzulernen, eine Selbstvorstellung der... machen wir nur die Borsisti zunächst. Prima die Borsisti. Soll ich sagen, wer ist, oder rufen wir es alphabetisch auf? Ist vielleicht einfacher, ja? Ist recht? Alphabetischamente. Er kann als erster Herr Erwin Xaver Augustin sprechen. Ja, Franz Xaver Augustin. Oh, entschuldigen Sie. Sehen Sie mal die Brille. Ja. Nicht da, Franz, ja, natürlich Franz. Ja, ich war 2 Jahre am Deutschen Historischen Institut als Stipendiat tätig. In Rom? In Rom, ja. Und befasse mich mit einer Studie über die Darstellung Deutschlands, des Nationalsozialismus, der Aufstieg des Nationalsozialismus aus der Sicht des faschistischen Italien. Ich bin zurzeit wieder zurück nach Deutschland gekehrt, habe da zeitweise in der Schule tätig, musste mal das Skandal jetzt machen, deswegen ist die Arbeit noch nicht fertig. Ich hoffe sie aber jetzt im nächsten Jahr abschließen zu können. Dankeschön, das ist also ein Gegenstück zu dem, was Lönne und andere machen, nur von der anderen Seite her. Ja, ist also geradezu ideal für unsere Thematik. Il dottor Domenico Conte. Sì, io sono attualmente dottorando in ricerca, credo si dica così, presso l'Università di Napoli, in storia. Sono stato borsista dell'Istituto Croce, borsista del DAD presso l'Università di Bielefeld un paio d'anni fa. Mi occupo attualmente degli ultimi anni della Repubblica di Weimar rispetto soprattutto al problema dei ceti agrari. Dei ceti agrari? Sì. Grazie. Dottoressa Enrica Costa Bona. Io abito a Milano ma lavoro all'Università di Pavia, alla Facoltà di Scienze Politiche, sono ricercatore alla Cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali. Mi sono occupata della Polonia nella Seconda Guerra Mondiale, nel periodo tra le due guerre, e adesso mi occupo di uno studio sulla guerra d'inverno del 39-40 tra la Russia e la Finlandia. Grazie. Dottoressa Renata Di Maria. Qui. Dunque, io provengo da Napoli e tornando al Dipartimento di Filosofia e Politologia. Un po' più, più forte, per favore. Scusi, la acustica qui non è fra le migliori, sì. Dunque, provengo da Napoli, tornato al Dipartimento di Filosofia e Politologia di Napoli, sono specializzata in filosofia, sono stata borsista del DAD e prima ancora sono stata borsista a Londra e mi occupo in particolare delle interpretazioni del fascismo e del socialismo. E per questa ragione sono stata in Germania, in particolare ho approfondito l'interpretazione del fascismo da parte di Franz Neumann, un esponente della scuola di Francoforte. Da questo punto di vista mi torna utile il contatto con il professore Zacca, un confronto che appunto del quale ho letto la dittatura tedesca e avrei piacere di approfondire appunto l'aspetto. Grazie. Dottoressa Assunta Esposito. Sono io. Io sono stata borsista all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, prima ancora all'Istituto Croce di Napoli, e adesso vedo come ricercatrice all'Università di Roma presso la Facoltà di Scienze Politiche e Storia Contemporanea. Mi sono occupata della visione nazionalsocialista dell'opera di Bismarck attraverso la storiografia e la pubblicistica. E attualmente sto ancora lavorando a questa tesi sull'opinione pubblica italiana contemporanea all'epoca di Bismarck, sulla Germania. Grazie. Allora tutto c'entra proprio nel nostro tema. Herr Gerd Evers. Ja. Ich bin aus Oberbayern und befasse mich mit einer Arbeit, die regional beschränkt ist, mit Traunstein, Kreis Traunstein, das ist also eine große Stadt in Oberbayern, in der Nähe des Chiemsees. Es ist etwas angeregt von den Arbeiten, die über Bayern im Nationalsozialismus und seit des Nationalsozialismus geschrieben worden sind. Ich bin kein Student mehr, sondern Lehrer seit etwa 15 Jahren und mache das neben meiner beruflichen Tätigkeit. Danke vielmals. Jetzt kommt das nächste. Dr. Gisela Framke. Ja, bin ich. Ja, das ist ich. Ich habe vor 2 Jahren promoviert über ein Thema des italienischen Nationalismus. Und zwar habe ich eine Monographie des Archivio della Guardia geschrieben, die hoffentlich jetzt bald erscheinen wird. Und ich habe diese Aber das Thema bleibt weiter bei Ihnen wohl aufgehoben. Dr. Silvia Guidi. Guidi? Grazie. Io lavoro a Bologna presso il Centro di Ricerca di Storia Politica sulla caduta del fascismo? No, scusi. Sulla forma partito. La forma partito del fascismo. No, mi sono sbagliato. Sulla forma partito alla fine del secolo scorso, fino all'Ottocento, di cui è uscito un libro recentemente, e poi ho fatto uno studio sull'Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego, cioè il problema burocratico all'interno del primo fascismo, che uscirà tra poco. Grazie. Poi c'è Dr. Manfred Hinz. Das bin ich. Ich habe studiert in Berlin und am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz Philosophie und politische Wissenschaft. Ich habe mich in Berlin befasst, im strikten Sinne mit Philosophie, habe ein Buch gemacht über Fichte, über die Staatsphilosophie von Fichte. Ich bin dann nach Florenz gegangen, habe dort eine Dissertation geschrieben über die politischen Aspekte des Futurismo Italiano, insbesondere bei Marinetti. Als kleines Nebenprodukt habe ich gemacht ein Büchlein über die faschistische Architektur von Albert Speer in Deutschland als Vergleichsmodell zur Situation der Kunst im faschistischen Italien. Ich bin im Augenblick Assistent an der Universität Augsburg. An der Universität Augsburg? Ja. Dann ist Giuseppe Ieracci. Sono studente di filosofia, non ancora laureato, sto lavorando una tesi sulle origini del nazionalismo a Genova con il professor Confrancesco, ho ancora seguito i corsi in questi 4 anni. Questo è tutto. Grazie. Dr. Dieter Kruger o da Krüger? Krüger, ja. Yeah. Si dimentica facilmente i due punti, sì. Attualmente sono ricercatore, ancora ricercatore dell'Istituto Universitario Europeo a Firenze. Purtroppo non sono uno specialista del fascismo né del nazionalsocialismo, nonostante sia tanti anni fa sono stato allievo di Kühne, che in Germania, nell'interpretazione del fascismo. Da questo punto il mio interesse in questi discussioni. Mi sono occupato molto con la prima guerra mondiale, anche un po' con questa ideologia pre-fascista che nasce, secondo me nasce parzialmente durante la prima guerra mondiale. Mi sono occupato con i, si direbbe, nazionali con allora economisti politici in Germania nel tempo dell'impero guglielmino, e attualmente ho fatto un salto avanti, mi occupo con il secondo dopoguerra in Germania, 45, soprattutto con la politica economica, bancaria, finanziaria, fiscale, eccetera. Also sind ein Schüler von Kühne, ja. Ma, ja. Parzialmente. Dottoressa Romilda Scaldaferri. Attualmente frequento il corso di dottorato di ricerca in storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche a Torino. Mi sono occupata finora di ricerche sull'origine della forma partita in Emilia Romagna, con il gruppo del professor Tombeni, e di altri aspetti sulla storia dei partiti politici italiani. Adesso sto a svolgere un progetto di ricerca sulle origini dello Stato sociale in Italia, in Palestina, con relative comparazioni con il caso tedesco, francese e inglese. Danke schön, grazie. Magister Hanno Scheuch. Ich habe in Wien Rechtswissenschaften und Geschichte studiert und habe mich besonders also mit der österreichischen Geschichte zwischen den Jahren 1918 und 1938 beschäftigt und dazu im vorigen Jahr im Sommer begonnen, den Einfluss der italienischen Außenpolitik auf Österreich zu untersuchen und anhand der Akten, die am italienischen Außenministerium in Rom liegen. Meine Dissertation wird von Professor Mandusch geschrieben. Oder bei meinem Nachfolger. Und wird sich mit der Persönlichkeit der österreichischen Zwischenkriegszeit beschäftigen. Und im Moment bin ich Assistent auf neues Disziplin, also auf der Fakultät der Rechtswissenschaften. Sind Sie jetzt Assistent? Das ist was Neues. Österreich und Deutschland. Das ist bei ja. Ich habe schon was gehört, aber. Frau Margit Soloschi Janze. Ja. Ja, mein Name ist Wirklich, ich komme aus München, wie der Name schon sagt, ich bin halbe Ungarin und schreibe meine Doktorarbeit über die ungarische Freikreuzlerbewegung als eben ein Beispiel von bisher noch nicht erforschter faschistischer Bewegung, die nur sehr kurz auch an die Macht kam. Und interessiere mich hier über Aspekte eben des italienischen Faschismus, die ich gleich noch in meiner Arbeit einbeziehen kann. Ja. Danke vielmals. Können Sie dann mit Professor Valiani Ungarisch reden? Professor Valiani spricht ebenso gut Ungarisch wie Deutsch und Italienisch und Englisch und Französisch und Spanisch. Nein, damit haben wir alle. Nein. Ebenso schlecht. Na, aber Ungarisch sprechen Sie doch sehr gut. Für Sie. Es kommt mir so vor, wenn ich Sie mit ungarischen Kollegen sprechen höre. Ja. Dottor Stefano Trinchese. Ho studiato a Bologna con il professor Alberigo, occupandomi soprattutto dei rapporti tra Roncalli, futuro Giovanni XXIII, e Pompatten, in Turchia. Okay. Successivamente ho continuato a collaborare con l'Istituto delle Scienze Religiose di Bologna, attualmente dopo aver avuto borse di studio del Ministero degli Esteri a Vienna e a Costanza, e svolgo ricerca sul movimento cattolico nell'ambito della storia dei partiti all'Università di Teramo. Attualmente ho una borsa di studio biennale a Tubinga per studiare il centro tedesco. Ma insegna adesso no, è a Teramo? Io non insegno nulla, Tubinga. No, perché prima avevo detto Teramo, no? Teramo, sì. Teramo, sì. Poi Herr Michael Wedekind. Ja, ich studiere noch an der Universität Münster Geschichte und Italienisch. Habe 50 Jahre in Bologna verbracht und ich interessiere mich für dieses Thema, weil es bei uns an der deutschen Universität in der Regel etwas vernachlässigt wird, habe ich den Eindruck. Also in Münster wird selbst wenig angeboten, dennoch bin ich in der Lage gewesen zu arbeiten über den italienischen Einfluss bei separaten Friedensbemühungen zwischen Hitlerdeutschen und der Sowjetunion. Danke vielmals. So, il professore ospiti, prima auch. Chi c'è dei cervelli non c'è. Cervelli deve ancora venire. Deve ancora venire. Leoncini. Professor Leoncini. Dove si è nascosto? Ah. Io sono del Dipartimento di Studi Storici della Facoltà di Lettere di Venezia, mi occupo di storia dell'Europa centro-orientale, in particolare di storia cecoslovacca, e attualmente sto lavorando sui movimenti di opposizione nei paesi socialisti, in particolare sul 56 polacco ungherese. Grazie. Lili ist nicht da, Francesca Maggiotta Broglio ist auch noch nicht da. Lili Maggiotta Broglio arriverà domani. Domani. E adesso il famoso professor Matteucci, come ultimo. Che insegna filosofia morale all'Università di Bologna, che si occupa della praktische filosofia, che sta studiando in Germania, ma che ha il libro precursore, il libro di Hannah Arendt, Vita attiva con la condizione umana, che ritengo analisi importante per la nostra discussione, e ne parlerò dopo. Grazie. Benissimo. Adesso cominciamo i relatori. Ai relatori, dobbiamo anche, che chi c'è dei relatori? Abbiamo qui. Altgeld non c'è. Professor Bracher ist schon allen bekannt, wird noch vorstellen. Co Francesco ist nicht da, De Felice ist nicht da. Professor Emilio Gentile, damit man nicht... Sì. Insegno storia contemporanea all'Università di Camerino, ho iniziato a studiare la regola di fascismo nel periodo pre-fascista, la cultura politica antigiolittiana, la formazione del mito dello Stato nuovo, l'ideologia fascista, adesso sto lavorando ad una storia del partito fascista. Dr. Jens Petersen. Ich bin Mitarbeiter des Deutschen Historischen Instituts in Rom und auch zuständig für den Bereich des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich habe gearbeitet unter anderem über die deutsch-italienischen Beziehungen in den 20er und 30er Jahren, dann über das Italienbild des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Ich gebe heraus die bemerkte Information zwischen den Unterschieden der Maschinen im 20. Jahrhundert und die Zeit der Neue Kriege. Dankeschön. Also il senatore jawohl, und dann ist der Professor Paolo Pombeni. Io insegno da novembre e torno a insegnare a Bologna storia dei movimenti dei partiti politici. Mi sono occupato di vari aspetti di storia dei partiti politici. Ho cominciato con studi sulla storia del Partito Cattolico Italiano, specialmente della sinistra tossettiana. Poi ho appena concluso uno studio sul problema della forma partito del fascismo e adesso riprendo questo progetto di lungo periodo di nuovo in cui si inseriscono otto di questi studi, che è il tentativo di arrivare a una sintesi della storia europea dei partiti politici nell'età contemporanea. Anche il senatore Valiani è già conosciuto, credo vuole ancora aggiungere qualcosa. No, niente. Voglio sentire le vostre critiche. Ich brauche mich nicht besonders vorzustellen. Ich habe in Wien Geschichte studiert in den 30er Jahren und war dann Professor in Köln, war inzwischen durch Journalist, immer sehr stark politisch interessiert. Eine meiner Habilitationsarbeit betraf die Parteien in Österreich, Österreichs politische Struktur. Und wie gesagt, ich habe die Anregung gegeben zu diesem Zyklus der ideologischen Strömungen und Parteien, die wir hier an unserem Institut gemacht haben und die nun einen gewissen Abschluss mit diesem heurigen Seminar hat. Ich glaube, das ist alles, was ich bin. Poi ci sono alcuni altri della casa, come il maggiordomo che dicevo prima, ma ci sono i membri della giunta dell'istituto, il professor Roger qui presente, là in fondo c'è il professor Corsini, ma non lo vedo più. Il professor Schiera, dov'è? Ad ogni modo voglio dire questo solo perché voi trovate anche persone che sono qui pratiche della psicologia. No, dei co-caso mai. Ecco, per la biblioteca, eccetera, per le indicazioni sull'istituto. Sì, il bibliotecario c'è anche qui. No? Giorgio Buterini. Sopra c'è. Ma e c'è l'amico Peppe Olmi. E Peppe Olmi, lo avete capito subito, è uno dei perni, ecco, risponde appunto a tutte le domande, quasi tutte. No, il problema solo è questo, siccome si tratta di un istituto ormai con una certa dotazione, con 60.000 volumi, parecchie centinaia di riviste, eccetera, il seminario non avviene nel vuoto, ecco, avviene all'interno di una struttura che può anche servire per il dibattito e per tutti voi, ed è al servizio, ecco, questo è solo detto prima di incominciare la discussione. Incominciamo la discussione? Direi. Subito. Wagt keiner? Zu viele, non ti credi. Allora posso rompere il... Certo, ghiaccio lei. Ghiaccio, darf ich das Eis brechen? Es hat mich ein bisschen gewundert, dass Sie nicht auf Gabriele D'Annunzio eingegangen sind, der ja gerade für den für die Liturgie des Faschismus, die dann vom Nationalsozialismus auch übernommen wurde, doch sehr viel geleistet hat, nämlich für die Art etwa des Dialogs zwischen dem Führer, dem Capo Charismatico, und der ja eigentlich auch selbst ein Capo Charismatico war, selbst noch in der Zeit des Faschismus und schon nach dem Tod von D'Annunzio hat man Leute getroffen, die gesagt haben, ja, der eigentliche Führer, der eigentliche Mann, der das alles bewegt hat, ist doch eigentlich D'Annunzio gewesen. Und bis zu den berühmten Dialogen von Josef Goebbels im Sportpalast, wollt ihr den totalen Krieg und so weiter, ist hier einiges hat doch D'Annunzio viel, der römische Gruß zum Beispiel, der dann zum deutschen Gruß wurde und andere Dinge sind doch bei D'Annunzio sehr stark und wichtig ausgeprägt und auch bei seinen Legionären und so weiter. D'Annunzio war ein großartiger Redner. Ich habe ihn sehr oft gehört, ich bin aus Fiume und wir wohnten gerade gegenüber dem Palais des gewesen österreichisch-ungarischen Gouverneurs, wo D'Annunzio seinen Sitz hatte. Ein großartiger Redner und ich würde sagen, ein noch größerer Schauspieler. Hervorragender. Und Dichter. Bitte? Und Dichter. Und Dichter, was natürlich selbstverständlich ein Dichter, den man noch heute lesen kann, und nicht nur als Dichter, sondern als Prosa-Schriftsteller, vielleicht Romane. Vorher vielleicht eher als Prosa-Schriftsteller und als Dramaturg, wie als Dichter. Aber Literatur beiseite, er wirkte wirklich als großartiger Redner, großartiger Schauspieler. Und natürlich die Intuition, denn all diese Liturgie, also selbst die, sagen wir, die Verwendung der sogenannten Arditi, das waren die bravsten, die tapfersten Sturmkämpfer im Ersten Weltkrieg. So organisiert, um in Sturmkämpfen teilzunehmen mit dem Dolch, also physisch tapfer. Und dann natürlich Eyalala und Schwarzes Hemd und so zu grüßen und viele andere Sachen. Das alles hat Mussolini von ihm genommen, natürlich als Künstler hatte D'Annunzio eine Fantasie, die Mussolini vielleicht direkt nicht hatte, aber Mussolini als Politiker hat dessen Wichtigkeit verstanden. War D'Annunzio ein charismatischer Führer? Das ist eine Frage, eben, vielleicht viel zu intellektuell. Also Führer in einem breiten Sinne war er, und nicht nur in Fiume 1920, sondern in ganz Italien, speziell in Rom natürlich, 1915 in der Agitation für Italiens Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Er war wahrscheinlich die wichtigste Personalität unter denen, die für den Eintritt in die Weltkriege wirkten. Mussolini war einer auch, aber viel weniger bedeutend wie D'Annunzio. Und das habe ich erwähnt, auch die italienische Dolchstoßlegende. Das hat kein Ludendorff in Italien erfunden, sondern D'Annunzio. Nostra Vittoria non sarà mutilata, das schon im November 18 in Rom, und das war schwieriger zu akkreditieren wie die Dolchstoßlegende, denn die deutsche Armee stand doch tief in Frankreich, als die Front zusammenbrach, während Italien alles, was eigentlich wollte, erreicht hatte, nur gerade nicht die Städte von Spalato in Sebenico in Dalmatien, die doch ganz kleine Städtchen waren, und kein Italiener wusste, ich wusste denn mein meine Familie stammt selber sehr spät. Aber sonst kein Italiener wusste, wo stand Spalato oder Sebenico, Kunsthistoriker. Natürlich ja, hauptsächlich von Spalato. Aber diese Legende hat er in eine Massenpsychose verwandelt und das hatte diplomatische Konsequenzen. Vor dem Faschismus, im April 1919, der Ministerpräsident Orlando brach mit den westlichen Verbündeten Italiens, also hauptsächlich mit dem mächtigsten Mann der damaligen Periode, Wilson, dem Präsident der Vereinigten Staaten, wegen Fiume und Dalmatien, weil er, das geht heraus aus den diplomatischen Akten der Versailler Friedenskonferenz, weil er nicht traute, nach Italien zurückzukommen und sagen, wir haben alles erreicht, was erreichbar war, verlangt nicht das Unmögliche und Unwichtige. Das war D'Annunzios hauptsächlich wer, natürlich war es eine kollektive Psychose. Er war der Vertreter dieser Psychose und dann folgte das Abenteuer in Fiume. Also das war doch eine Weiterung. Meuterung in der italienischen Armee, ungefähr 12.000 von Offizieren und Unteroffizieren und Soldaten meuterten und gingen, desertierten die Armee und gingen über zu D'Annunzio in Fiume im offenen Kampf gegen den italienischen Staat, gegen die italienische Regierung, um Fiume, das durch Londoner Vertrag von 1915 nicht an Italien kommen sollte. Das war eine italienische Stadt. Ich muss ihm immer dankbar sein, denn sonst wären wir Jugoslawen geworden. Oder vielleicht Freistadt, aber die Freistädte dauern nicht lange leider. Aber das war eine revolutionäre Tat, ohne Zweifel, dass dem Faschismus sehr befehlslich war. War er ein charismatischer Führer? Was ist ein charismatischer Führer? Ich würde sagen, er war ein charismatischer Redner, aber kein Führer. Ein Führer muss utilitär sein, praktisch die Macht wollen. D'Annunzio hätte die Macht erobern können. Ebenso wie Mussolini die Macht erobert hat, hätte sie auch D'Annunzio erobern können. Aber er hatte sie nicht behalten können und das wusste er und deshalb hat er sich nie entschlossen, die Marcia su Roma aus Fiume, wo er diese 12.000 bewaffnete, das waren Elitetruppen, hatte und er hatte große Sympathien in denselben Schichten Italiens und auch in anderen Schichten der italienischen Gesellschaft wie Mussolini, aber er wollte eigentlich nicht die Macht, er wollte die Gloire. Den Ruhm, die Ewigkeit, nicht? Also etwas, was höher steht wie die Macht, aber nicht so konkret praktisch ist. Charismatischer Führer in unserem Sinne will auch die Gloire, aber hauptsächlich will die Macht. Wenn er die Gloire höher stellt wie die Macht, es geschieht ihm wie am Ende Mussolini geschah, der in den Zweiten Weltkrieg eintrat, wegen der Gloire und verlor deswegen die Macht. Professor Matteucci. Io sono un filosofo e i filosofi amano parlare di storia prescindendo completamente dai fatti. Giusto. Quindi anch'io prescinderò dai fatti. Io vorrei soffermarmi però su 2, 3, 4 concetti che erano presenti nella ricchissima relazione di Valiano, cioè sulla parola dittatura, su stato autoritario, che sottolinea la parola stato, e su totalitarismo. Io dico soltanto totalitarismo e non dico stato totalitario perché per me dire stato totalitario è una contraddizione in termini. Insomma, io cerco dei tipi ideali, la loro, seguendo Max Weber, dei modelli ideali che valgono per me per la loro coerenza, anche se poi infatti non corrispondono ai nostri tipi ideali. Dunque io mi vorrei liberare del della parola dittatura, perché uno dei tanti significati della parola dittatura è stata introdotta dal marxismo. Ma quando il marxismo mi dice che tutti gli stati, in quanto stati, sono delle dittature, mi dice una frase che non mi serve assolutamente. Mentre il termine porto dittatura è quello romano, ripreso nel contratto sociale da Rousseau, e soprattutto dopo l'indagine di Carl Schmitt, dove mostra come vi siano due forme di dittatura, la cosiddetta dittatura commissaria, e sottolineo questa dittatura commissaria perché è interna alla formazione, allo sviluppo e al rafforzamento dello Stato moderno, da una dittatura che è la dittatura conseguente, che a noi non interessa. Interessa la prima dittatura come forma interna, essenziale alla formazione dello Stato moderno, la dittatura commissaria. E quindi preferisco utilizzare questo senso rispetto alla terminologia, all'uso marxista di questa parola, che a mio avviso non serve a molto. Essendo se tutti gli stati sono stati autoritari, siamo nella cosiddetta notte buia in cui tutte le vacche sono nere. Lasciamo da parte per un momento che cos'è lo stato autoritario, a cui arriveremo alla fine quando cercheremo di contrapporlo a un elemento del totalitarismo. Ho citato inizialmente Hannah Arendt, che io non considero una politologa, una scienziata politica, ma che io considero soprattutto una grande filosofa, allieva di Karl Jaspers, perché non solo con il libro sulle origini del totalitarismo, ma anche con un altro libro pubblicato in America, On the Revolution, a mio avviso porta un chiarimento di carattere concettuale a questi termini che sono, diciamo, di dominio, no, sono di questo nostro dibattito che noi usiamo. E mi voglio soltanto soffermare per un momento in modo estremamente schematico alla sua definizione di totalitarismo, che è stata la prima nella storia dell'approfondimento del concetto di totalitarismo, un libro che a mio avviso è estremamente stimolante ed estremamente vivo, anche se in certi aspetti dopo altre indagini superato, ma nessuna opera seguente dimostra la profondità filosofica e l'originalità di questo lavoro. In fondo, per spiegare il totalitarismo, Hannah Arendt, schematizzando al massimo, si pone su tre momenti. Il primo momento è la questione ebraica. E la questione ebraica, a mio avviso, va vista non soltanto come un fatto storico di persecuzione degli ebrei prima del nazismo e quantitativamente e qualitativamente forte con il nazismo, ma l'ha vista come uno dei problemi centrali della filosofia moderna. Giambattista Vico, nella sua Scienza Nuova, già distingueva due storie, le storie dei popoli gentili e la storia del popolo ebreo, con un rapporto completamente diverso rispetto all'assoluto, rispetto a Dio. Ed è centrale in tutta la filosofia tedesca, la filosofia classica tedesca, fino a Marx. Ora, scendendo dai concetti astratti e arrivando al concreto, noi possiamo dire che il nazismo, quando sorge, sorge per risolvere la questione ebraica, cosa che non è invece nel regime fascista. Mussolini affronterà la questione ebraica soltanto nel corpo, ricordi giovanile, scendendo da un aeroplano e disse che bisognava affrontare la questione ebraica, ma non mi ricordo il pagliato preciso. Che cos'è per il comunismo? E per il comunismo noi vediamo che se guardiamo all'inizio della rivoluzione del 17, tutta la classe dirigente bolscevica era praticamente di origine ebraica, ma venne quasi immediatamente tutta eliminata, eliminata politicamente, ma soprattutto eliminata fisicamente. Io qui do uno spunto, perché a un certo momento è uno spunto che va approfondito in un ripensamento filosofico della storia contemporanea, che peso ha questa questione ebraica, che è una questione che non è soltanto di umori e di passioni di carattere politico, di politica contro gli ebrei, ma è, come vi dico, anche una questione filosofica della nostra, del nostro tempo. Poi vi veniamo all'altro elemento di analisi, quello che è la disgregazione sociale, all'atomizzazione della vita umana, la quale è dovuta in parte, in gran parte, alla guerra e anche in parte alla rivoluzione industriale. Nascono le masse e nasce il grado, come si dirà nel titolo di un fortunato libro, La mobilitazione delle masse. Ora richiamo questo punto per rilasciarne la relazione di Valiani, là dove parlava Croce, perché in fondo Croce aveva, a mio avviso, più o meno intuito che la prima guerra mondiale, essendo una guerra totale, avrebbe portato, uso termini decisamente non crociani, a questa disgregazione sociale. Prendiamo Croce, bisogna leggere insieme tre opere di Croce. Cioè, bisogna leggersi la storia d'Italia, ovviamente con la sua chiusura, laddove dice, e qui chiude con l'intervento dell'Italia in guerra, e dice non possiamo parlare perché questo appartiene a un'altra storia, a una storia completamente diversa. Leggersi questa affermazione, interpretandola con un famoso contributo alla critica di me stesso, che scrisse sì per i suoi 50 anni, per esame di coscienza nei suoi 50 anni, ma che scrisse quando stava per scoppiare la guerra mondiale. E lì c'è tutta una piccola intuizione che la guerra mondiale avrebbe cambiato radicalmente quello che era l'assetto, diciamo, liberal-democratico europeo di prima. Ma soprattutto leggendosi, è stato citato da Valiani, le sue pagine sulla guerra, dove Croce non diceva di anime ne ho una sola e non posso perdere la mia anima. Ebbene, Croce ha avuto questa è una citazione proprio ad adattuando un'affermazione di Valiani, quando Croce capì il fascismo, ma capì il fascismo, a mio avviso, non solo nella chiave giustissima del volontarismo irrazionalistico che lui aveva condannato già prima della prima guerra mondiale, ma lo capì ancora di più nella consapevolezza che la prima guerra mondiale era una guerra completamente diversa da tutte le guerre che erano precedute. Ma, e questo invece viene maggiormente al nostro dibattito, l'analisi dell'Hannah Arendt è basata, a mio avviso, non tanto sulla ideologia, quanto sulla struttura di potere propria del totalitarismo. E a mio avviso l'Hannah Arendt qui mostra chiaramente come il regime o il totalitarismo porta una struttura di potere completamente diversa e ignota dal passato. In fondo credo che anche il fortunato volume pubblicato recentemente in italiano, non mi ricordo più l'autore, Il doppio Stato, si scrive Frank, si muova secondo questa distinzione. È proprio questa distinzione che ci permette di vedere la radicale e assoluta differenza tra uno Stato autoritario e il regime e il totalitarismo. Voglio annunciare prima la mia tesi e poi dopo potremo, dall'astrazione di concetti, scendere un po' più vicini alla storia. Ma la mia tesi è che l'autoritarismo è un momento dello sviluppo e dell'affermazione dello Stato moderno, attraverso anche la forma della dittatura commissaria, mentre il totalitarismo è un fatto totalmente nuovo, è un fatto totalmente nuovo che si sviluppa dove lo Stato moderno è debole. Per esempio, faccio una parentesi, riprenderò dopo questa parentesi il filo dei miei pensieri. Coloro che scrivono dei libri su Hobbes o anche su Rousseau, su Hobbes come precursori del totalitarismo sbagliano completamente, perché Hobbes è invece il teorico più interno della formazione dello Stato moderno come Stato assoluto. Ritorniamo in careggiata chiudendo la parentesi, ripeto, il totalitarismo è un fatto nuovo, è un fatto nuovo e profondamente diverso rispetto, diciamo, allo Stato moderno. E allora per per approfondire questa mia affermazione, dico che dobbiamo tenere presente quello che è il processo di costruzione dello Stato, lo state building, come dicono gli americani, insieme al processo di costruzione della nazione. Ora, possiamo dire storicamente che la costruzione dello Stato in Italia, in Germania e in Russia è un fenomeno, direi, molto recente, è ottocentesco. Direi, portando avanti il discorso, ma questo non è molto pertinente, che in fondo da noi prima viene la coscienza della nazione, dopo la coscienza della nazione, da noi Italia e Germania, prima c'è la presa di coscienza della nazione, poi che la nazione può diventare soggetto politico dandosi uno Stato. Mentre se noi ci riferiamo alla Francia, alla Spagna, noi vediamo che qui abbiamo un processo inverso, e già nel 500 si costruisce lo Stato, i primi elementi dello Stato, e l'episodio, noi ci limitiamo soprattutto a studiare la Francia, ma dovremmo studiare molto anche la Spagna, è una costruzione dello Stato ed è lo Stato che costruisce la nazione, è uno Stato che nazionalizza. Ora, se noi guardiamo i fenomeni di autoritarismo, Valiani ha citato Franco, ha citato Napoleone I e Napoleone III, ma sono fatti interni alla struttura e all'evoluzione dello Stato, in quanto sono stati autoritari. E perché sono interni allo Stato? Che diciamo in Spagna e in Francia abbiamo delle strutture statali forti, mentre in Italia non abbiamo delle strutture statali forti. E quali sono gli strumenti attraverso i quali si realizzano gli stati autoritari nella storia di questi paesi? Ma sono due strumenti che sono classici, è l'esercito ed è la grande burocrazia. Sono questi gli strumenti operativi, diciamo, degli stati autoritari, ma sono due strumenti operativi che sono proprio forgiati proprio sin dal suo sorgere dallo Stato moderno. E in fondo, quando Marx, in quelle che forse sono le sue opere per me più belle, più interessanti e più vive, ma nemmeno discusse, nemmeno citate durante il periodo della rinascita di studi su Marx, cioè le due opere, Lotte di classe in Francia e 18 Brumaio, a un certo momento Marx, al di là dello schematismo delle due classi in lotta tra di loro, scopre una nuova classe alla fine. La nuova classe che vince qual è? È la burocrazia dell'esercito, e ne sono la burocrazia e l'esercito gli strumenti operativi dello Stato autoritario. E la dittatura, oppure il regime autoritario di Franco, della Spagna, si spiega proprio perché aveva questa eredità pesante di un esercito che aveva una tradizione che affondava fino nel 500. E invece nei regimi totalitari abbiamo non lo Stato, ma abbiamo doppio Stato, perché al posto dell'esercito abbiamo la milizia, abbiamo visto durante la guerra quanto peso avevano le divisioni che erano le divisioni delle SS, eccetera, eccetera, al posto di una burocrazia che è ancora una burocrazia legale di tipo Max Weberiano, abbiamo il partito. E il partito non risponde agli schemi Max Weberiani, se vogliamo, perché è una burocrazia non legale, ma una burocrazia di carattere carismatico. E non abbiamo, a mio avviso, tanto il doppio Stato quanto abbiamo veramente il prevalere sullo Stato rappresentato dall'esercito e dalla burocrazia, abbiamo invece il reale prevalere del partito e delle milizie e soprattutto della polizia segreta, che sono loro i veri motori della società politica, perché esercito e burocrazia sono l'apparenza, mentre la sostanza del potere viene esercitato proprio dal partito che controlla tutto, che controlla l'esercito, che controlla la burocrazia, ma che agisce anche in modo autonomo da un esercito, se vogliamo, anche quasi privato e dalla polizia segreta. Questo è uno degli elementi di Hannah Arendt quando parla delle somiglianze di strutture. strutture di potere tra i diversi totalitarismi, azzerando completamente l'interesse verso l'ideologia. Questo ve ne sono altri, il prevalere del movimento, la luce carismatica, che in questa sede non ci interessa. In questa sede mi interessa proprio, per ripeto quella che era la tesi del mio intervento, distinguere l'autoritarismo come momento che si sviluppa all'interno dello sviluppo dello Stato moderno in certi momenti, ma utilizzando tutti gli strumenti che sono propri dello Stato moderno nella sua storia, tanto l'autoritarismo che è un fatto radicalmente nuovo e che con lo Stato moderno non ha nulla a che fare, perché utilizza strumenti che adesso sono completamente diversi, sono completamente strani. Io ringrazio il professor Matteucci per questo chiaro e brillante intervento, e che io approvo, devo dire, sono d'accordo. Tuttavia, siccome siamo in sede di dibattito, io che invece sono uno storico empirico, voglio fare qualche osservazione. Prima di tutto sulla Judenfrage, sulla questione ebraica. Matteucci ha perfettamente ragione, questa è una questione, una delle questioni fondamentali, non l'unica naturalmente, ma questo va da sé. Naturalmente la Arendt la vedeva un po' anche troppo personalizzandola, era una studiosa ebraica che aveva dovuto lasciare la Germania e sentiva profondamente, io non conosco bene la biografia della Arendt, però nelle origini del totalitarismo, quei capitoli iniziali sulla società berlinese e gli ebrei nel Settecento, evidentemente rivelano un filone nostalgico che non so se sia venga dalla sua famiglia o se venga semplicemente dalla sua cultura, ma certo si sente moltissimo, che io posso confermare in Europa fino al 1918. Gli ebrei erano considerati come filoteleschi. Durante la prima guerra mondiale, non in Italia, perché in Italia la questione ebraica non aveva importanza, ma in Francia e in Inghilterra, gli ebrei erano guardati con diffidenza, perché erano considerati filoteleschi, perché la cultura ebraica era largamente fusa con la cultura tedesca, proprio per le considerazioni che la Arendt fa e per molte altre. Ancora la lingua degli ebrei un po' era il tedesco, questo non a Salonicco dove era lo spagnolo, ma tutta la Polonia, ma a Belgrado, a Zagabria, naturalmente a Budapest, a Leopoli, a Cracovia, la lingua degli ebrei era, insomma, la grande diaspora ebraica andò verso la Polonia secoli fa e lì diffuse, si impadronì della cultura tedesca e diffuse la cultura tedesca. E questo era sentito da parte d'altra, naturalmente da parte degli ebrei, identificandosi con la Germania e poi trovando questo shock invece dell'antisemitismo che venne durante la prima guerra mondiale, quando proprio in Germania gli ebrei furono accusati di essere stati imboscati, profittatori, sovversivi, colpevoli della disfatta, e da parte degli altri invece che li odiavano. Io sono stato in prigione per pochi giorni nel 1928, all'inizio del 28, quindi prima delle prime affermazioni elettorali del nazismo, con due giovani nazionalsocialisti che erano entrati senza passaporto in Italia, così Van der Jugend, li avevano schiaffati in cella con me, che ero invece dentro per antifascismo. Sono le prime cose che ha presi su Hitler, fu da loro, perché anch'io non sapevo neanche che Hitler esistesse. In quel momento avevo 19 anni e si sapeva naturalmente che esisteva Ludendorff, il putsch del 23, ma Hitler non mi era molto chiaro. E loro mi spiegarono che il fatto fondamentale è che ogni tedesco deve odiare ogni ebreo e che il discendente del principe Bismarck andava odiato perché aveva una moglie ebraica. Però sempre i fatti, e ne parlo nella mia relazione solo stamattina, nel riassunto non ho voluto perdere tempo su questo, ma forse vale la pena di dirlo. Il paese dove l'antisemitismo scoppiò con violenza fisica estrema, parte i pogrom prebellici in Russia e in Romania, non fu la Germania, fu l'Ungheria, perché gli ebrei erano giunti al potere in Ungheria, naturalmente non in quanto ebrei, ma in quanto socialisti e comunisti. Nella Repubblica Ungherese dei Consigli la maggioranza dei capi era di ebrei, ben inteso di ebrei che avevano come madrelingua l'ungherese, ormai erano altrettanto identificati con l'Ungheria come gli ebrei tedeschi con la Germania, patrioti nazionalisti ungheresi estremi, ma ebrei, la loro sconfitta, su questo c'è anche un romanzo però molto antisemita dei fratelli Tarot in Francia con Disraeli e Roa, e sull'Ungheria del 1919, dice, dominata dagli ebrei. Due famosi romanzieri francesi, famosi allora dell'Action Française, che naturalmente era molto antisemita. Scoppiò un violento movimento di massa antisemita dopo la caduta della dittatura del proletariato. Io nella mia relazione mi domando perché questo movimento, che era un movimento prenazista o prefascista, come volete, più prenazista perché era anche razzista, identificando gli ungheresi in una razza, il che è più vero che per i tedeschi, non diversa dalle altre, una razza turanica, in realtà la lingua ungherese è una lingua finno-ugarica, cioè non viene per niente dai Turani, ma più a nord, non viene dall'Asia centro-meridionale, ma dall'Asia settentrionale. Però gli ungheresi vengono come fisico popolo, la lingua evidentemente risale a molto prima, vengono effettivamente dalla parte insomma bassa del Volga del Don, quindi movimento razziale, movimento sociale, perché di piccola borghesia estremamente impoverita, con grandi masse anche contadine, violentemente antisemita, anelante a una dittatura totalitaria, che però non riesce a vincere perché mancarono a questo momento tre elementi, e questi tre elementi sono quelli che a mio avviso spiegano la vittoria del fascismo e del nazismo, invece della sconfitta o comunque dell'impotenza di questo movimento ungherese, che poi avrà un suo corrispettivo con Codreanu in Romania. Questo movimento mancò anzitutto del monopolio del nazionalismo, perché anche le classi al potere ungherese, oligarchica, aristocrazia, media e grossa proprietà, erano altrettanto nazionalisti. Non potevano giocare la carta della Syrian Share nazionalista perché tutti erano ugualmente nazionalisti. Hitler poteva giocare dicendo non nei confronti di Hugenberg, ma insomma nei confronti di tutti i partiti di Weimar. Hitler poteva giocare la carta della non accettazione di Versailles, Mussolini poteva giocare la carta di D'Annunzio della vittoria mutilata. Lì erano tutti su quel terreno della guerra di rivincita. Quindi mancò il monopolio del nazionalismo. Secondo, mancò il capo carismatico, non l'ebbero. Il maggior capo politico ungherese, il conte Le Bethlen, era un conservatore di vecchio stile, insomma, una specie di, come potremmo dire, sonnino italiano, ungherese. E terzo, manco il partito. Invece di crearsi un proprio partito, entrarono nel partito governativo, detto dell'Unità Cristiana, e lì furono assorbiti da una struttura di partito che era invece totalmente diversa, una struttura di partito parlamentare, oligarchico, perché non c'era il suffragio universale, il suffragio era censitario, il voto era palese, eccetera, quindi il governo che influenzava pesantemente le elezioni, e il partito che aveva la grande maggioranza dei seggi, ma un partito parlamentare che tollerava le opposizioni, e questi nazisti o fascisti ungheresi erano in quel partito. Quando uscirono e crearono il loro partito, già dopo l'avvento al potere di Hitler, si avvicinarono fortemente alla conquista del potere, ma insomma lo ottennero ormai soltanto con la invasione tedesca dell'Ungheria nel 1944. Cioè, monopolio del nazionalismo, capo carismatico e un proprio partito mi sembrano ingredienti fondamentali di un fascismo e nazismo vittorioso, mentre anche in paesi in cui la questione ebraica è profondissimamente sentita, come era in Ungheria, il solo antisemitismo non dà un partito vincente. L'Ungheria fu la prima a creare delle leggi razziali, gli studenti ungheresi venivano in Italia a laurearsi perché c'era il numerus clausus, gli ungheresi erano il 5% della popolazione, non potevano iscrivere alle università se non gli ebrei ungheresi, se non limitandosi al 5% degli studenti universitari, e poi altre leggi razziali. Croce, io sono totalmente d'accordo con Matteucci, tuttavia vorrei dire, la storia d'Europa, quando dice, viene qualcosa di diverso, poi lo precisa anche con la guerra, questa è una guerra diversa, una guerra di specie del materialismo storico, no? Cioè una guerra in fondo fondata più su problemi economici di potenza ad oltranza che su problemi nazionali o dinastici o religiosi come le guerre del passato. Però io ricordo che a Ponza, dove appunto arrivai al confino, leggemmo questa storia d'Italia un po' tutti confinati, e naturalmente era molto importante avere un libro che era visibilmente antifascista. Però unanime osservazione, non è vero che sia una storia totalmente nuova, perché noi vedevamo, non sapevamo esprimere, non avevamo naturalmente la cultura, l'intelligenza di Croce, ma sentivamo che il fascismo non era poi una cosa, un'invasione degli Ixos, dei barbari, come in fondo Croce in quel periodo pensava. C'erano degli addentellati prima, ognuno di noi i fascisti li aveva visti, cosa che Croce non aveva potuto vedere già per ragioni di età, ma noi più giovani li avevamo visti, erano i nostri compagni di scuola. Non c'era niente, li conoscevamo, avevamo giocato con loro fino al giorno in cui loro diventarono antifascisti, in grande maggioranza, noi in piccola minoranza, apolitici o antifascisti. Cioè venivano dal nostro stesso ambiente, non c'era questa, c'era una rottura, ma non totale. E in effetti anche Croce nella storia d'Europa a risalire il fascismo appunto all'anteguerra, poi l'industrialismo, il bismarchismo, il danunzianesimo, il rivoluzionismo, mentre nella storia d'Italia, forse perché era troppo vicino, eccetera, nella storia d'Europa, anche perché vide che non rimase isolato al caso italiano, ma quando scriveva la storia d'Europa si vedeva già l'ascesa del nazismo, vedeva che anche prima della guerra c'era già una spinta verso il 70. Come? 1870. Appunto. Ma, esatto. Ma invece nella storia d'Italia, così messa, sembrava che il fascismo fosse uscito soltanto dalla guerra. Il che rifletteva anche questo la posizione psicologica di Croce, perché lui era stato contrario alla guerra del 15. E aveva visto sin dal 15 l'incubazione nell'interventismo con cui la guerra, per esempio appunto nella polemica contro la cultura tedesca, era stata condotta. Però poi, riflettendoci sopra, la proietto più indietro, più rettamente da un punto di vista storico. Autoritarismo e totalitarismo, anche lì con Matteucci. Curioso, ne parlavamo stamattina col professor Braher. Adesso la storiografia in Italia, un po', o sulla pubblicistica se volete, la tendenza di dire il fascismo era autoritarismo perché metteva al primo posto lo Stato, il partito, il nazismo era totalitarismo perché metteva al primo posto il partito, al secondo posto lo Stato. Nelle relazioni del professor Gentile e del professor Pombeni discuteremo poi questi problemi, penso. Tutti e due hanno scritto delle cose molto interessanti su questo. Io però vorrei ricordare, appunto ne parlavamo col professor Braher, che Mussolini fu il primo a parlare di totalitarismo, voglio dire il primo non fra gli scrittori politici ma fra gli uomini politici, mentre Hitler non si diceva totalitario, lui si diceva autoritario. Hitler si diceva autoritario, non totalitario. Stalin poi non si diceva né autoritario né totalitario, lui si diceva un democratico socialista, naturalmente comunista. Gli uomini vanno giudicati, diceva Marx, non per quel che pensano di se stessi. Cioè, io sono d'accordo, anzi, vado più in ordine. Senza uno Stato liberale non può esistere. Lo Stato liberale senza autorità fa la fine di Fakta e di Kerensky. Quindi genera necessariamente la dittatura comunista. Quindi Stato deve essere anche autoritario, ma anche democratico, liberale nell'età contemporanea. Le due cose vanno insieme. Invece il totalitarismo evidentemente sorge appunto da un'epoca, è il prodotto di una particolare epoca che dura ancora, ma sta tirando le cuoia anche nei paesi, dura ancora nei paesi comunisti, ma che in fondo è scaturito, in questa ragione il professor Pombini, come risposta a parti istituzionali che lo Stato parlamentare non riusciva a risolvere in Germania e in Italia. Germania, Italia, Russia, diceva il professor Ebole, o comunque non sono troppo tardi rispetto a Francia, Inghilterra, io aggiungerei rispetto all'Austria. Quello che diceva Matteucci è confermato dall'Austria da un punto di vista opposto. Francia, Inghilterra, Spagna, lo Stato riuscì a creare la nazione. In Austria non riuscì a creare la nazione, solo Giuseppe. Ma le rimasero, il suo tentativo fallì, le nazioni rimasero, tanto le due nazioni fondamentali, degli tedeschi, austro-tedeschi e gli ungheresi, poi cechi, jugoslavi, polacchi, eccetera. Quindi ecco perché sì. Ovviamente Stato italiano senz'altro giunti e debole. Lo Stato tedesco però debole non era, perché aveva un precedente fortissimo nello Stato prussiano. Esercito fortissimo, burocrazia fortissima, statale, ingredienti di una perfetta creazione di uno Stato moderno in Prussia c'erano. E con Bismarck si estesero a tutta la Germania. Evidentemente c'è una drammaticità specifica in più della tardiva creazione dello Stato nazionale unitario in Germania che ci fa spiegare il nazismo. Io ripeto, non risalirei naturalmente a Lutero, a cose di questo genere. È nella storia dell'Ottocento, dal modo come l'idea di democrazia entrò in Germania e non riuscì a acclimatarsi in Germania. Entrò in Italia, non riuscì a acclimatarsi se non parzialmente in Italia, in Russia addirittura entrò solo nell'opposizione, mai nel tessuto dello Stato, molto meno comunque che in Germania, dove pure il suffragio universale, il Reichstag, avevano la loro importanza a partire appunto da non dedurrei il nazismo da Bismarck neppure, però i problemi si sono posti allora e la mancata soluzione, ecco, quindi sono poche aggiunte di fatti che in sostanza confermano quello che il professor Matteucci ha detto. Abbiamo tre. Il professor Gentile mi parla. Io vorrei fare una brevissima osservazione su un'affermazione fatta dal professor Matteucci, sulla quale lei, senatore, ha concordato, cioè la debolezza dello Stato liberale in Italia, e che poi si connette al tema di fascismo. Ma perché questo Stato era debole? Era debole dopo il 60 e dopo il 70. Nel 60 riesce a reprimere i brigantaggi, un'opera di repressione, opera dell'esercito. Nel 70 è uno Stato che ha una solida burocrazia e riesce a superare anche il trauma del conflitto con i cattolici. Alla fine dell'Ottocento riesce a superare la crisi, la famosa crisi di fine secolo, che nessun paese aveva affrontato nelle stesse condizioni dell'Italia, e riesce a superarla non solo, ma non in forma autoritaria, in forma liberale, anzi, la premessa per il liberalismo più giuridico. Riesce a superare il primo grande sciopero generale europeo, riesce a superare la crisi del 9, riesce a superare la crisi del 14, che è la settimana rossa, moto non rivoluzionario, ma certamente molto grave e senza depressione, anche se era salata al governo, ma dopo la politica dei giuridiani di lasciare che questo moto si salata, e riesce nonostante tutto a superare la prova della guerra, perché lo Stato liberale riesce a superare la prova della prima guerra mondiale, ma riesce a superare anche la settimana, anche il biennio rosso. Nel momento in cui il fascismo va al potere, nel 22, abbiamo la ristabilizzazione economica, la ripresa economica, un notevole ristabilimento dell'ordine per quanto riguarda il movimento socialista grazie all'azione, alla reazione fascista e allo svuotamento del movimento socialista, è uno Stato che ha ancora, a mio avviso, delle notevoli riserve di autorità e di forza. E quindi dire che è uno Stato debole e che questo costituisce la premessa per il fascismo, quasi che il fascismo vince soltanto perché ha di fronte a sé un corpo moribondo, secondo me non è molto convincente. Il fascismo vince non perché ha di fronte a sé un corpo moribondo, certamente, perché abbiamo visto che riesce a superare delle crisi molto gravi e quindi non c'è una intrinseca debolezza che lo predispone a subire l'assalto fascista. Probabilmente i motivi vanno cercati in qualcosa che il fascismo già era in quel periodo. E per questo poi diventa di quello che dirò di domani, ma soltanto volevo processare questo perché a mio avviso si stabiliscono non trovano molta corrispondenza nella realtà storica dello Stato liberale italiano. Si crea un po' un mito che poi era quello fascista, della debolezza intrinseca dello Stato liberale. Noi dobbiamo sostituirlo con uno Stato forte. Ma in realtà è uno Stato che ne è riuscito a superare le crisi, a fare una prima campagna, invece prima, e secondo me non era intrinsecamente debole, se non avesse avuto di fronte a sé una crisi che era imprevedibile, che probabilmente forse nelle stesse proporzioni nemmeno democrazie consolidate come la Francia per portare, l'opposizione sleale. Opposizione? Sleale, cioè da un sistema liberale che ormai non aveva più un sostegno solido nei partiti esistenti. E poi l'altro elemento dà una novità che era il partito armato fascista, che non voglio entrare nelle discussioni sul problema di che cos'è totalitarismo, ma che c'è, è il primo fenomeno, il primo partito armato totalitario dell'Occidente, e di fronte al quale lo Stato liberale, nonostante la sua forza, viene sopraffatto non per un'intrinseca, ma perché credo si gioca una partita tra vecchi uomini politici che ancora in termini di ordine e movimenti politici che ragionano in termini di distruzione di qualsiasi forma di opposizione e di legalità. E con questo chiudo perché non problema. È vero che lo Stato liberale ha superato tutte queste crisi, direi aggiungiamo anche la crisi inflazionaria armata ancora da Giolì 20, con l'abolizione del prezzo politico. Il lancio era già avviato al pari prima della marcia su Roma, però il professor Gentile stesso ha detto un momento fa che non trovava più sostegno nei suoi stessi partiti, vale a dire, per allargare il discorso, ha sembrato di consenso secondario forma del brigantaggio o di episodici scioperi generali come quello del 1904. Già la settimana rossa, bisogna stare attenti perché Mussolini, che non è avuto, doveva dare il potere, vide però che violava, perché la settimana rossa significò anche per alcuni giorni lo Stato in Romagna, nelle Marche, fu totalmente soppiantato dalle mafie. Totalmente in questi anni, in qualche Mussolini, da lì che, anche se l'insurrezione in quel momento non si doveva tentare, però questo Stato, insomma, era debole. Lo vide proprio durante la... Ma insomma mancava... Lo si vide elezione 19. Chiaramente a suffragio universale, c'erano stati a suffragio, avevano colto impreparato lo Stato, le masse. Nel 19 perdono la maggioranza assoluta, i liberali intesi dalla destra liberale, democratica, politica, insieme, partito, anche se nel suo riformista che è stata, partito popolare si pone ancora in una posizione dubbia verso lo Stato, entra nel governo, naturalmente non c'è più il non expedito, e ha dovuto dar popolarità, perché avrebbe simpatizzato con D'Annunzio, che rappresentava la ribellione allo Stato, trattato da Disertano, lo era con 12.000 soldati, Misiano disertò, egli, io lo ricordo benissimo, chiato a Milano, i cittadini furono spogliati, seminuti dovettero rifugiarsi nelle case accanto, che qualcuno gli desse un prestigio dello Stato, città dell'intervento. Ma poi non è aspettato da nessuno. Colpa è proprio quello che diceva, che i partiti perlomeno sostenevano, e anche se avevano perso la maggioranza assoluta, ma avevano, formavano il governo, invece di sì, non sostenevano lo stesso. I giolitti della vittoria del fascismo erano unilaterale, proporzionale. E alla fine, per già proporzionale, che impari di avere la maggioranza assoluta in maggioranza relativa, e dei gruppi parlamentari, la segreteria dei partiti, era il fenomeno che disgregava lo Stato e che necessariamente per lui da piazza. Discutendo nelle varie relazioni, voglio dire, la forza di un debolezza dura soltanto dai suoi insuccessi. Vittoria nel secondo Inghilterra ha perso l'impero. Tutta la politica estera inglese era l'impero, sono uscite tanti documenti diplomatici inglesi, è stato un fallimento completo. Volevano l'impero in forme moderne dimostrano che lo Stato inglese è rimasto forte, anche se è stato un insuccesso. L'inglese, come se fosse intrinseco, un partito armato sul quale concordo interamente con Gentile, non sarebbe riuscito a... Wir haben jetzt noch 20. Ich eine kleine Bemerkung. Zu dem, ja. Ich meine, der Vergleich zwischen Demokratie und den Staat ist gescheitert. Auch nicht nur auch wegen der Bürokratie. Also der Staat war fest. Nicht? Ja. Und versuchte, gelang es den Staat intakt war, keine Staatskrise, sonst war eine Regime-Staat. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu der Italien, der auch erklärt, 1922, er glaubt nicht mehr, waren andere noch stärker zu tun. Können auch Deutsch sprechen. Bravo. Prima, magari si può aggiungere fatto ci sorgeva un vista che è addirittura che è fondamento in crisi, ma non è importante, su cui ha parlato anche il senatore nella sua ampia relazione, che è importante per la parte dei fascisti. Il fatto che il conflitto è nel caso italiano, dato che i socialisti hanno negli anni 20, quindi subito dopo la guerra, non so cose come quello, certo, si trova nel male, veramente a fare attentismo russo. E nonostante ci sono centinare l'elemento operaio. E dire se lo Stato esiste perché di gente che in un certo punto è un movimento operaio. E il movimento operaio, dicono, magari in Germania, nella crisi economica, o, cioè, per esempio nella letteratura della credenza del fattore di risolvere. Tenterò la mia relazione, non è che voglio anticipare. Vorrei solo punti che secondo me sono importanti in questa relazione molto stimolante del centro italiano. A questo punto, centri decisionali hanno fatto di avere ripristinato, no? Hanno potuto una situazione forte, una borsa assegnata, eccetera. Quindi certo che lo Stato italiano era uno Stato relativamente in pace. Ripeti, quando arriva da dove la situazione, sotto Mussolini, di studiare, dice, l'epoca istituzionale, sempre, tanto e poco consenso, vuol dire, consentire tanta gente che si lancia il governo, che ciò non sta per questo. come motivo il governo. I problemi nazionali ci sono, a volte non c'è un consenso italiano, e questo secondo me c'è un consenso di una serie di sistemi, cioè, e soprattutto dei sistemi che funzionavano meglio per gli autonomi, interessante, che consentivano di tenere messo in discussione, che era istituzionale, la debolezza secondo me, la sistema istituzionale questioni molto importanti della questione ebraica, mi pare tanto nel senso che è un senso moralistico, no? Voglio dire, la questione fondamentale della questione ebraica, che è la questione della doppia cittadinanza, un'osservazione mia, no? Nelle sue francesi, no? Ore. C'è, ma il grande problema degli essendo germani nazionalismo, cioè, a chi li accusava c'è una integrante. C'è un'idea che però questo integrati la maggioranza chiesa di gli altri tedeschi in, non parliamo della Francia attaccata ebreo lui certamente. E Aaron stesso si sente più dopo sorge il problema questo era un problema secondo me è molto più perché come tutti una in una figura carismatica. Comunicazione costituzionale carismatica non può esistere. Mussolini, per, poi abbiamo qui quattro giorni, 14, nel fascismo, il socialismo carismatico, se non la minaccia, l'avrebbe seguito. Con lei, ma di monopolio. Ma perché è la sei, no? Sì, certo. Perché sempre ne rompono, non sempre, partito, invece non lo so. What made you crazy? Sì. Cioè io volevo tanto lasciare il fallimento perché sono proprio il fascismo come regressione precedente piccolo errore perché a me è tanto l'illuminismo all'incirca di che in linea può illustrare parlare di comunismo stesso perché pre-illuminismo i o i fascisti ai fratelli orientali tutti gli assorbimenti occidentali che sono la tradizione illuministica sono destinati a fallire come in effetti è successo c'è soltanto questo volevo dire ma no, questo è giustissimo solo anche lì, dato empirico la polemica anti-illuminista ebbe il suo culmine né in Italia né in Germania il romanticismo della prima metà dell'Ottocento cioè perché in Inghilterra il romanticismo perché dal contrattualismo era giacobina lo Stato liberale è nato liberale moderato no? Nato dal juste milieu dei romantici ora i romantici fecero la più virulenta polemica anti-illuminista in Francia su un terreno molto elevato, non di piccola media borghesia, ma di altissimi intellettuali, quello degli anni venti, no? Ma poi le condizioni reali, cioè in Francia l'illuminismo come sbocco democratico era indigeno, in Italia e in Germania è venuto dall'esterno, è venuto dalle armate della rivoluzione pur essendoci sia in Germania che in Italia grandi intellettuali nel secolo XVIII naturalmente i Verri, Beccaria non parliamo poi in Germania anche prima, Lessing no? Sì, Lessing sembra una eccezione no, come? Lessing va avanti fino a Goethe, a Schiller e più illuminismo di Schiller ma adesso dobbiamo chiudere per il momento abbiamo grazie. Ringrazio molto il senatore Valiani che ha acceso la sono riuscito a resistere io devo mangiare ore per l'insulina invece ho resistito benissimo grazie alla vostra compagnia ma lei viene adesso con noi sì adesso vado a questa